hai visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oh, Cruciani, qualche tempo fa usciamo col nuovo collega e amico belga a prendere una birra e tra una cosa e l'altra gli chiediamo come ha imparato l'italiano. Ma no, non ho seguito nessun corso dal Belgio, seguivo dei podcast della radio e noi già iniziamo a capire la situazione. Facciamo, ma che cosa sentivi? È la zanzara. Beh, la sua prima parola in italiano è stata beh, siamo al top. Pensava che la Nappi fosse un senatore e qui chiudo. Tu sai, caro Parenzo, che io chiuderei la discussione, forse anche la trasmissione, forse anche il mondo, per il fatto che vengono utilizzate all'interno di questa mi fai dire di questa ormai fastidiosa discussione sulla legge Cirinnà. Io ho migliaia di ascoltatori che mi scrivono basta legge Cirinnà, hanno ragione. Cosa vuol dire basta? No, basta discussione, perché è la solita commedia all'italiana. Ne sta discutendo il Senato, ma purtroppo è una commedia all'italiana. Basta. La parola stepchild adoption bisognerebbe abolirla. Vale solo, è utile solo a scoprire l'ignoranza di alcuni deputati e di alcuni senatori. Sì, certo. È stata utile solo a quella roba lì. Perché non la si chiama in italiano adozione da parte di coppie omosessuali? Adozione da parte di coppie omosessuali, che non significa adozione, ma l'adozione del figlio del partner. Questo è. Ma utilizzate, anzi, del compagno, no, del partner, perché utilizziamo le parole in italiano. Adozione da parte di coppie omosessuali, no stepchild adoption. Sì. L'altra cosa che è incredibile è la parola cattodem. Tu pure la utilizzi, cattodem. Il cattodem. L'ha utilizzata sì, anche Alfano. Basta, basta con i catto. E sono parlamentari, non cattodem. Sono parole fuori dal mondo che la gente non capisce. Lo dico anche a quelli che i colleghi, chiamiamoli colleghi. Cattodem, amici miei, cattodem. Poi dice che non leggo, la gente non compra i giornali. Utilizzate la parola cattodem. Abolitela, cattodem. Infatti oggi il senatore Viotti ha twittato: i senatori cattodem hanno rotto il cazzo. Ecco, vi pare possibile che in Parlamento ci sia ancora gente? No, ma non c'è da applaudire, questo è un momento. Mi sembra possibile che in Parlamento ci sia ancora gente che usa termini così fuori luogo? Ragazzi, va bene tutto, ma cattodem non si può più sentire, cazzo! Allora, il quotidiano Libera oggi titola con la foto di Vendola con la pancia, Niki Vendola con la pancia. Sì, beh, incredibile. A qualcuno ha fatto schifo questa prima pagina del quotidiano così amato da Parenzo Libero. Sì, è una cosa incredibile. Dai. Ci impongono una legge per dare un figlio a Vendola. Ma non è vero, perché la legge non c'è, peraltro. È vero, quindi... che Vendola e il suo compagno sono andati indipendentemente dalla legge in America. Ma tu ti rendi conto, la barbarie. Ma non è la barbarie, però no. Indirettamente è anche vero. Ti posso dire una cosa, no, anche è vero. Il contrario. contrario. No, allora, perché Vendola, aspetta, può avere un figlio nonostante non vi sia la legge. Certo, però per, allora, per essere riconosciuto, siccome probabilmente il figlio sarà del compagno, ma Ed, vabbè, per essere riconosciuto in Italia ci vuole la stepchild adoption, cioè la, certo, la cosa prevista dalla CIRINA. È così, allora, però. Cioè, lascia perdere, ci impongono una legge. Allora, il fatto che non ci sia la legge non ha fermato il semino, lo sperma, se ti piace, quello sicuro, più, quello sicuro, perché si può fare in America, perché si può fare in America, perché si può fare dappertutto. Però ti dovrebbe fare schifo questa cosa che fa Vendola, eh? No, no, cioè, la giudico, ah, non no, la farei, non io, sei come non Luca Telese che dice che sarebbe un meraviglioso padre. Luca ha detto questo, sarebbe un padre meraviglioso. Ma, sì, ma su questo non c'è dubbio, ma questo non, però a te fa schifo quello che sta facendo Vendola. No, perché no, non lo no, dici? Io ho detto no, io ho detto un'altra cosa. Io ho detto che sei che trovo aberrante la pratica dell'utilizzo. È la stessa cosa che sta facendo Vendola, dillo. Non giudico che padre sta la Vendola, perché non mi permetto, no, no, non ah è... con Vendola non ti permetti di ma dire, ma che in la generale può chiamarsi anche Cruciani, ma non giudico, non posso giudicare che papà, ma come sarà, non giudico? Ma se ti fa schifo la pratica, ti fa schifo la anche chi la utilizza, ma dopodiché non posso dire se sarà un buon padre o un cattivo padre, no, dico no, che quello lascia perdere, è quello mi hai chiesto, quello ti chiedo, ti fa Luchino schifo Telese, Luchino Telese ha detto sarà un ottimo padre, non ho motivo per pensare il contrario, però non ti fa schifo quello che sta facendo Vendola, no, ti fa schifo, no, no, certo, ma l'utero in affitto non è che mi fa schifo, non mi va l'utero in affitto, l'ho detto 2 milioni di volte. E ti fa schifo quello che sta facendo Vendola? Ma lui come tante altre persone, ma schifo, schifo, no, non lo fa, non userei mai il corpo di un'altra donna per farla incubare. Allora ragazzi, voglio dire due paroline su quello che sta succedendo alla regione Lombardia, perché qualcuno ha detto ah non dite niente eccetera eccetera, ma uno deve farsi anche un po', no, deve schiarirsi un po' le idee, deve beh, leggere c'è qualcosa, poco, c'è poco da chiarire, no, però, beh, c'è moltissimo da chiarire, che c'entra. Ieri non abbiamo parlato, ne abbiamo parlato poco semplicemente non perché c'è non c'è molto da chiarire. C'è un signore che era assessore alla sanità, che guarda caso non è della assessore Lega alla sanità, non è assessore guarda alla sanità. Caso era della Lega Nord. Ma come? Non è assessore alla sanità. No, no, non hai capito un cazzo, è presidente della commissione sanità. Non c'è nessun presidente assessore della commissione sanità. Scusi, presidente della commissione no, sanità. È importante, certo, che c'è. Vabbè, no, ma Rizzi, si allora, chiama Rizzi questo signore. Allora, vi dico una cosa molto semplice. Se è vero che l'architetto della sanità in Lombardia, questo Rizzi, ha incassato tangenti, mazzette per favorire un'azienda odontoiatrica attraverso la fidanzata. Questa è l'accusa, infatti ho detto se è vero che attraverso un'azienda odontoiatrica e soprattutto attraverso la sua compagna e la compagna del suo braccio destro. Questo perché, se è vero che Rizzi ha costituito addirittura una società fuori per incassare queste mazzette insieme alla moglie, insieme alla compagna. Se è vero che la campagna elettorale, come si dice in un'intercettazione di Rizzi, è stata finanziata da questa signora che è la madre, una specie di la Spectre, poi la società si chiama pure così, cioè una specie di, no, di zarina della odontoiatria in Lombardia, beh, allora amico mio, devo dirti la verità, Maroni forse si dovrebbe dimettere, anzi no, si dovrebbe dimettere, perché io dico, il presidente della regione, se non controlla i suoi uomini, che giro di soldi hanno, come si finanziano la campagna elettorale, Maroni, non lo so, questo ma che deve fare un presidente della regione se non controlla come girano, come uno finanzia la campagna elettorale, se questo tizio qua si è fatto finanziare la campagna elettorale, però se io per caso rubassi, non è che dovrebbero chiedere le dimissioni di Cruciani perché c'è il tuo amico, collega, parente, tu non hai controllato. Cosa, no, hai i rimborsi a Radio 24, se li hai fatti fare gonfiati, anche Cruciani si deve dimettere. Cioè, io ho sempre detto, e lo ripeto anche questa volta, secondo che te Maroni non si deve dimettere. Penale, no, questo è un caso politico, oltre che giudiziario, che riguarda Rizzi. Per quello sto dicendo. È un caso politico. Si è un deve caso dimettere totalmente... o no? No, al momento lui non si deve dimettere perché non è toccato dall'inchiesta. Fedriga, Lega Nord. Io dico che si deve dimettere chi viene toccato dalle inchieste. Fedriga, Lega Nord, questo è già stato sospeso dalla Lega. Fedriga, Lega Nord. Meno male. Se i fatti vengono confermati, io consiglio a queste persone di chiedere al PM di tenerli in galera. Perché queste se escono gli inseguiamo noi, queste 20 più nel caso Rizzi, okay, 21 sì. persone, rimane in galera, perché questo vuol dire tradire la Lega, tradire i cittadini lombardi, tradire la Regione Lombardia, ed è inaccettabile. Però tornando sulla questione, mi pare che i leghisti lo abbiano scaricato bellamente, assolutamente, da Salvini, assolutamente, con una velocità direi che il garantismo supersonica, cioè, supersonica. Una velocità come quella con la quale vorrebbero espellere gli immigrati clandestini, guarda, la stessa velocità con la quale loro vorrebbero buttare fuori dall'Italia gli immigrati clandestini hanno usato per il comandante Rizzi. Questo è curioso, però è interessante questo. Allora, tornando alla questione dei froci, degli omosessuali, caro Parenzo, ti dico subito una cosa. L'altra parola che mi fa incazzare sì. è canguro. Il super canguro. Ma la gente, molto bello. Sì, è bello, ma la gente a me piace moltissimo. La gente non gliene frega un cazzo. Perché il canguro è quell'animale che salta e che ha nella pancia il bimbo. Quindi è una metafora straordinaria del canguro, perché altrimenti salta tutti gli emendamenti. Anche al camionista. Sì, ma gli emendamenti sono una settimana. A Nicola da Bari gli piace il canguro, secondo me. Sì, canguro. Ma il canguro. Gli emendamenti sono una settimana di discussioni. Chi se ne frega? Che una settimana in più, una settimana in meno. Io da questo punto di vista sono dalla parte dei 5 Stelle. Che non vogliono. Ma no, ti pareva, io sono quasi sempre contro. Da una parte poi la velocità. Quella no, io sono a favore della velocità. Civili, sono a favore della velocità. Chi governa decide. Oh, io sono a favore della velocità, però capisco che chi è contro alcune cose o chi vuole ostacolare il governo o chi vuole ostacolare il governo utilizzi tutti gli strumenti parlamentari possibili, tra cui questa roba qui del canguro, di cui a me non me ne fotta assolutamente nulla. Votiamo domani, votiamo dopodomani. Dovrebbe fare un canguro anche alla Zanzara, cioè che si inizia alle 18:30, 18:40 si finisce e ci troviamo il giorno dopo. Un canguro meraviglioso sarebbe. E uno incassa lo stipendio lo stesso. Poi vinto duro il canguro alla Zanzara, però questo è il canguro. 18:30, buongiorno, buonasera, chi c'è? Donato da Varese. No, dai, canguro, ci vediamo domani alle 21. Stupendo. Allora, Bonolis dice che meglio i figli nelle coppie gay che con le suore. Stupenda sta cosa. Ma meglio... alla 7 peraltro. Sì, alla 7, sì. Interessante anche questo. Meglio i figli con le coppie gay che con le suore. Chi se ne sbatte di tutte queste cose televisive. Bonolis alla 7. Ma sti cazzi. Quanto ai figli, credo che i figli se possono vivere in una famiglia fatta da padre e madre, che siano due donne o due uomini o un uomo e una donna, cambi poco, sempre meglio che con sette suore, insomma, secondo me. Vabbè, ma che il signor Bonolis se la pensasse in un certo modo sulle unioni omosessuali è una cosa abbastanza nota. Certo che il paragone meglio nelle coppie gay che con le suore, beh, per me c'ha ragione al 100%. Cioè, io metterei, mettiamo che mia figlia, io muoio, no? Io muoio. Oddio, moriamo tutti, no? No, mi tocca dappertutto, eccetera. Però mia figlia, insomma, se devo pensare a chi affidarla, ad una coppia gay oppure ad un istituto dove ci sono 7-8 suore, ma tutta la vita in una coppia gay di amici miei. Cioè, pieno di coppie gay di amici, li affido a loro tutta la vita. Agli zii, la piuttosto dai, che tra sette suore. Ma tutta la vita. Zii, agli zii, la vabbè, dai, sì, ho capito. C'è una moria generale. Sopravvivono. Mamma una ecatombe, no, ragazzi. Un'ecatombe, sopravvive. Che... sopravvive. Una coppia sì. gay e sette suore. Guarda caso, e mia figlia. Solo sta roba qua sopravvive. Oh, ma la dico buono, ma in tutto il mondo. Se sette suore e una coppia no. gay. Ma sei curioso no, anche metti, tu. Sopra una c'è... coppia gay di cui lui, ex islamico, convertito magari all'omosessualità. Una coppia gay. Sette suore da una parte e mia figlia. È un disastro assoluto. Ci sarà qualcun altro? E io dall'alto che posso scegliere? Dall'alto morto che posso scegliere? La coppia gay, ma tutta la vita. Cioè, ma tutta la vita. Ma ragazzi, ma volete mettere una coppia gay di amici miei, persone per bene? Magari che conosco. Hai fatto un errore perché tra quelle sette suore c'erano due lesbiche, ad esempio. Anche lì avresti sbagliato. Ma no, vedi? Ma che c'entra? Avresti sbagliato. Va bene, dai. Quando sento il traffico divento pazzo! Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta La Zanzara. So you think you'll take another piece of me to sell? Cruciani, con tutti i messaggini dei tuoi amichetti, via! Se tu sei buco, dillo! No, amico mio. La toscanità le forte. Buco. Se tu sei buco, dillo. I toscani sono forti. Buco omosessuale. Buco. Amico mio, non lo sono, ma non ho niente contro e non escludo. Buco. Non escludo nulla nella mia vita, come dire. Allora, la signora Daniela Martani. Hanno detto che a Renzi gli piace la fotta. Mi devi sempre interrompere, guarda, mi devi sempre interrompere. La signora Martani, vegana. Chiudi dalla trasmissione, perché non ha più senso andare avanti. Sì, ho visto, hai fatto battaglia, no, la Martani, alla 7, su Tagadà. Lo dico, guarda, ma senti cosa ha detto. In redazione ti guardavo lì con quel dente giallo, ti guardavo lì. Hai detto anche delle cose da battaglia, ben non ho detto nulla da battaglia. Ma comunque eri ospite di Tagadà sulla 7. Sì, la signora Martani, l'hai già detto tre volte, non ti preoccupare. Eri alla 7, la signora Martani ha detto che per avere il latte assassiniamo i cuccioli. Cioè assassiniamo i cuccioli per avere il latte. No, senti, tu cosa hai detto? Cosa che potrebbe essere anche vera, io non lo so effettivamente se assassiniamo, li strappiamo per avere il latte. Perché il suo problema è che non si può bere latte. Non si può bere latte perché, oltre al fatto che fa male, secondo lei, per la dieta vegana, c'è anche una questione etica. etica. Per quanto riguarda il latte, se vogliamo parlare del latte, purtroppo la produzione di latte prevede l'assassinio dei, dei cuccioli, praticamente, quindi i cuccioli vengono tolti alla madre. Sì. Sì, i cuccioli vengono tolti alla madre, appena nati, ok? Addirittura ci sono dei, degli anelli con gli spunzoni che li mettono al naso per impedire al figlio di poter bere il latte della madre. Gli anelli al naso sono quelli che hai tu? No, io non ce l'ho al naso, caro Cruciani. Comunque te, poi, alla fine, lui... Ormai tu hai ingaggiato una guerra che sta diventando anche un po' ridicola, sinceramente te lo dico. Noi per bere il latte, il per figlio per appropriarci del latte che in realtà la madre produce per il proprio figlio, come tutti i mammiferi del mondo, è come se io diventassi madre a un certo punto. Questo è il problema della mattanza. Prendono, mi portano via il figlio a me perché il latte se lo deve bere qualcun altro, a cui non serve, perché a noi, cioè, a noi non serve assolutamente il latte. Tu stai paragonando i figli che potresti avere ai figli, ai vitellini e alla madre. Sono uguali per te. Sono esseri senzienti, gli animali, non sono oggetti. I figli che può fare Mastella, i figli che posso fare io, i figli che può fare la dottoressa là, sono uguali ai vitellini. Ma lui, perché tu consideri gli animali delle cose, non consideri degli animali gli esseri senzienti. Ragazzi, questi sono i nazi vegani, eh? I nazi vegani? Sì, però mi pareva fossi un po' timido oggi, eh? Ero in collegamento. In collegamento, eri anche un po', come dire, compiaciuto, perché la Martani, che comunque è una bella signora, mi pare, non, no? Più bella in televisione che dal vivo. Sì, c'era un po' di complicità, insomma. Chissà cosa c'è sotto, probabilmente messaggini. Amore, scusami, ora non ti posso attaccare. Allora domani torno a Milano, tutta pappa e ciccia, in televisione litigano, poi dopo vanno a casa, in radio, e allora ci vediamo stasera, magari Urbi in Brera. Urbi e Torbi, vergognati. Sta a Roma, tu stai dicendo Urbi e Torbi che ho una storia con la Martani. No, lo so, ma no, io non l'ho detto. Ma io, se tu hai capito, roba incredibile. Ma io non ho mai detto. Come non ho mai detto, ad esempio, che ti sei circonciso perché non funziona, non l'ho mai detto. Cioè, non oserei mai svelare che ti sei circonciso. Guarda, per problemi non di aprire questa discussione sulla circoncisione. E per la prima volta alle 18.50 hai pronunciato la parola erezione. Adesso poi non mi rompere le balle se si va su questioni che riguardano il sesso, capito? Massimiliano da Roma. No, ma ormai quello è sdoganato. No, amico mio, no, Massimiliano da Roma. Quando tu hai citato il Sole 24 Ore che ha pubblicato quella adorabile Pamphlet. Massimiliano, dai. Eccomi, Cruciani. Dimmi, caro. Senti una cosa, io ti devo rimproverare, io ti chiamo sempre per rimproverarti. Dai, ti dovresti vergognare dai. Tu con Perché? Questa pubblicità per le adozioni dei bambini ai bambini, l'adozione dei bambini alle coppie gay, ti dovresti vergognare. Io non faccio nessuna pubblicità, Massimiliano. Sì, ti dovresti vergognare. Ma non mi vergogno per niente. Sì. Sì, anzi, lo dirò, so che è una cosa. Se sei papà, no, so che è una cosa abbastanza impopolare, ma secondo me. Aspetta tu? Un attimo, stai fermo un attimo. Io Massimiliano. Non le darei alle suore, le darei alle coppie sì, che tutta ti la vita. Se dovessi scegliere, sì. E sai cosa che dico? Parenzo, mi ascolti pure tu? Si sta ascoltando, sì. Stai perdendo un sacco di punti, Parenzo. Lo so. Tu stai perdendo un sacco. Scappa da questa cazzo di zanzara. Lo so. Scappa da questa zanzara. Ma perché c'è? Stai perdendo davvero. Non è no, no, caro, ti ringrazio. Soldi. Lo so, ma sono qui perché culo, vanno difesi i diritti. Punti, vanno... Parenzo, tu sei una bella persona. Lo so. Parli di queste sozzerie di piselle. Mi tocca, ma sono qua a tenere il punto, amico mio. Sono qua a tenere il punto, a difendere i diritti. Ma davvero che fa la doccia una volta a settimana? Io non ci credo. È uno zozzone, lo so, amico mio. È vero. Ma davvero ti fai la doccia una volta a settimana? Ma è una porcheria, guarda. È una porcheria. Senti un po' una cosa, Crucia, ma se ti senti male per strada e viene l'ambulanza e ti caricano, no? Ti portano all'ospedale e ti spogliano e ti vedono le mutande sole, sai come ti toccano? Che pinzette! E te devi vergognare, ma che cazzo ridi, Crucia? Ma c'ha ragione! Ma te devi vergognare! Sembra il Faina questo, sai Faina, quello che sta su web. Tu te devi vergognare, sei nozzo sole. Allora, ti dico una cosa, che... Ma che mi dici? Aspetta, ti dico una cosa, Massimiliano, che io sono... so di dire una cosa molto impopolare. Che mi fa incazzare? Aspetta! Mame, sono contentissimo che Vendola è anche felicissimo per lui, a meno che non lo faccia in maniera strumentale, ma non credo, perché avere un bambino non è una cosa così. Non si guarda, io sono aspetta, stato, fermo sono sempre stato in disaccordo con con quel coso, con quello lì di destra, lì come si chiama? E come si chiama? Non lo so, se non lo sai. Quello che ha invitato poche Storace, sempre stato Storace. In disaccordo. Io no, sono sempre no. stato in disaccordo. Salvini, sì. Salvini. No, no, no. Gasparri, no. Giovanardi. Bravo, Gasparri, sì, sempre. Non ha detto, secondo la vita mia, non ha mai detto una secondo cosa. Secondo la vita mia, questa la è Faina, sì. Volta ha detto una grande cosa, ti giuro. Mi sono messo a applaudire dentro casa come rimasti. Ha detto che sì, che un bambino come te lo compri te lo rivendi. Ma quella è una puttanata, quella è una puttanata. Quel c'ha ragione, sì, perché te lo compri e tu te lo rivendi. Tu un bambino lo devi fare se c'hai se meglio c'hai, con i gay che con le suore. Cazzo, stai a dire, meglio con una coppia gay che con le suore. Segreture, stai zitto. Meglio con una coppia gay che con le suore. Come dice Bonolis. Viva Bonolis. Viva Bonolis. Viva Bonolis. Viva Viva Bonolis. Viva Bonolis. E ti dirò la verità. Ma che c'è? Caparezza è d'accordo con me, tra l'altro. Su cosa? Su questo sei d'accordo con me? No, io non sono così anticlericale come te, tutt'altro. No, no, no, però voglio dire una cosa, che io sono molto contento che Vendola vada in America a fare un figlio, lo deve portare in Italia, perché tutti quelli che dicono, compreso Alfano, che vanno arrestati quelli che fanno l'utero in affitto, adesso dovrebbero, e parlano di Lo Giudice, che è un senatore che non ha un nome così famoso, adesso lo devono dire lo stesso per Vendola, perché non escono fuori i vari Gasparri, i vari Alfano, che dicono Vendola va fermato e non va fatto rientrare in Italia perché pratica l'utero in affitto, lo dicessero, perché non lo dicono di Vendola adesso? Cioè, no, invece io sono a favore e sono molto contento che Vendola faccia questo figlio con l'utero in affitto, la porti in Italia, che faccia il papà con la carrozzina, con tutto quanto, i giardinetti e tutto. Massimiliano, non ti piace questa immagine? L'utero in affitto, ma che cazzo dico? Con l'immagine di Vendola ai giardinetti. Ma conto dove siamo? Se tu vai in Africa, dove si morono di fame, una donna nera gli dici, senti, fai un bambino, me lo vendi, te dopo quella te pisso addosso, in Africa. Ma chi te l'ha detto? Ma dipende. Questa immagine così che immediata. Massimiliano, perché mi sto avvelenando. Ma scusa, ma l'immagine di Vendola con la carrozzina ma al parco, non ti piace? È una vergogna. Ma che vergogna? È bellissimo, è stupendo, è meraviglioso. Perché non può fare bene il padre, signor Vendola? Guarda, io sono straconvinto che tu ti fai 3 docce al giorno, Crucia. No, ma non me le faccio, non me le faccio. No, questo non è vero. No, no. Me la sono fatta oggi perché sono andato a correre, ma era tre giorni che non me la facevo. Oggi che è mercoledì. No, credo che l'ultima doccia me la sono fatta domenica pomeriggio, domenica sera. Non ci crederò mai. Me la sono fatta oggi perché sono d'accordo. Sono stato lunedì e martedì senza farmi la doccia, ragazzi. Ma qual è il problema? Bravo, guarda, Cruciani, tu sei. Mi sono lavato, che c'è? Cruciani, ti dico 2 cose e poi ti attacco. No, devo chiudere. Questo è il suo problema suo. Massimiliano, devo chiudere. Ciao. Avete rotto i coglioni con questo dente giallo del Cruciani. Avete rotto i coglioni. Voleva parlare dei suoi capelli. Lo shampoo, questo sconosciuto. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital. La Zanzara. Parenzo, ma non farmi ridere. Ieri hai detto che sei alto 1,74 m, ma lo sanno tutti che tu sei alto 1 metro e un succo di frutta. 1 metro e un succo di frutta. Secondo me Parenzo ha l'amante in Veneto. Che notizie che arrivano, Scusami, che notizie che arrivano. L'ufficio dell'azione, beh, molto interessante quello che arriva qui al 393 71 71 701. Cioè, uno può chiamare così e dire qualunque cosa praticamente. Sì, ma cos'è questa storia del Veneto? Non lo so, è tantissimo che non ci vado in Veneto, peraltro. Cos'è questa sai? Storia del Veneto? È vero, sono fidanzato con Bitonci, lo confesso. un'unione di fatto Parenzo-Bitonci. Sì, pensa cosa sarebbe. Così. Lo confessiamo, è così. Ma se Bitonci, che è il sindaco di Padova, per chi non lo sapesse, non lo so, Bitonci rimanesse l'unico uomo sulla faccia della terra, tu e Bitonci, no? Una grande strage termonucleare, una grande catastrofe. Sempre cose apocalittiche di Crociani. Ecco, sentiamo, rimani tu, oltre che la suore, le sette suore e mia figlia, rimani tu e Bitonci. Bene. In un'altra isola, tu e Bitonci insieme. Sì. Che succede? Cosa succede? Che succede? Tu e Bitonci. Guarda, ti dico cosa faccio. Prendo 50 noci di cocco, me le leggo intorno al collo con uno spago e mi butto in mare proprio. Cioè ti suicidi in pratica. Cioè mi suicido, tecnicamente. Pur di non rimanere con Bitonci nella stessa. Sì, no, anche perché sennò mi renderebbe clandestino, capito? Farebbe una delibera lì da solo e mi renderebbe clandestino nell'isola. Quindi non conviene scappare via, insomma, conviene morire. Uccidersi. Sì, assolutamente. Assolutamente. Allora ragazzi, se volete incazzarvi un po', più di quanto non siete già incazzati, sentite questa piccola intervistina che abbiamo realizzato con la signora Eva Klotz, caro Parenzo. Vogliamo spiegare chi è la signora Eva Klotz? Signora Eva Klotz è una simpatica indipendentista che ha da poco ricevuto una meravigliosa indennità pari circa a 976.000 quasi euro. Un milione di euro, dai, quasi un milione di euro. E vuole l'indipendenza del Südtirol, Volkspartei. Indipendente del Tirolo, diciamo, no? Oppure l'annessione all'Austria. Oppure l'annessione seconda ipotesi. È una persona estremamente educata, peraltro. Molto educata, però incassa dallo Stato italiano, su cui lei sputa sopra. Sputa, lo dico io, naturalmente. 1 milione di euro. Se volete arrabbiarvi un po', più di quanto non siate già arrabbiati da questa giornata magari piena di pioggia, con la macchina, incazzati per la moglie, per l'amante, per questo. Quello che non va bene sul lavoro, eccetera, eccetera, sentite. Sì, buonasera, signora Klotz? Sì. Salve, buonasera, qui Radio 24, la disturbo? No, mi dica. Come stai innanzitutto? Sì, va bene, me la cavo. Se la cava, nonostante tutte queste critiche, se la cava. Sì, io sono a posto, non ho rubato niente, mi presento a tutte le domande, perciò non ho niente a nascondere. Lei non deve nascondere niente perché dice io ho preso i soldi che sono previsti. Ma sì, quelli che io avevo versato tutti questi anni. Però voi avete deciso da soli quanti soldi versare, cioè i vitalizi sono comunque molto più della pensione che prendono gli italiani. No. Per farle capire, mi faccia capire. Io sono entrata nell'83 in consiglio provinciale, no? Sì. Dagli anni 60 era una legge e a base di questa noi consiglieri regionali eravamo agganciati al sistema mensile vitalizio dei parlamentari e allora era previsto che bastava una sola legislatura, cioè 5 anni di consiglio, che si poteva andare prendere a 60 anni di vita un terzo di uno stipendio. Ma questo era un privilegio? Privilegio o no, era quella la situazione della legge. È un piccolo privilegio. È un privilegio, no, non piccolo, c'è dubbio. Piccolo, piccolino. Ma che cosa le devo dire? Non ho fatto io quella legge. Ho istituito... No? In parte l'ha fatta lei la stessa legge. Sì. L'ha approvata, dunque, ha approvato la legge che le ha consentito di incassare quei soldi. No, non avevamo in mano nessuna lista con le cifre che venivano riportate dopo. Va bene, d'accordo, d'accordo, quello sì, però la legge che ha consentito di incassare subito l'ha approvata pure lei. Tutti insieme, il conguaglio. Il conguaglio, quello che è. Cioè, a un politico, diciamo, del Trentino Alto Adige, sì. Sì, le devo dire, allora, quando sono state fatte tutte queste leggi, nessuno mai si era interessato. Le chiedo una cosa, il fatto che lei abbia sia una persona indipendentista che abbia attaccato l'Italia spesso dal punto di vista politico, l'Italia le fa schifo, signora, questo bisogna dirlo anche con lucida e poi prende il vitalizio dall'Italia o no? No, non è un vitalizio dall'Italia. Sono questi i soldi che abbiamo versato noi nella cassa della regione per i vitalizi. Ma è Italia quella. E dopo io sono andata in politica, no? Con un chiaro programma. Sono stata votata 7 volte, perciò tutto questo io adesso metto a disposizione per i nostri ideali dell'autodeterminazione. Non decidi chi abbia combattuto il nostro ideale da sempre. Non sono i soldi dell'Italia, soldi che abbiamo versati secondo legge regionale. Legge regionale che è stata comunque all'interno di uno Stato italiano. Senti, io voglio capire una cosa. Lei come considera, cioè quale considera il suo paese? L'Italia o il Tirolo o l'Austria? Tirolo. Il Tirolo. Al quale spetta l'autodeterminazione. E cosa... L'Italia ci lasci fare il referendum, se posso metto a disposizione tutti i miei soldi che per si faccia il referendum, ecco sì. Ma cos'è per lei l'Italia? Un paese straniero? Cos'è l'Italia? L'Italia per me è lo Stato al quale siamo annesso senza la nostra volontà, uno Stato che fino adesso ha negato il nostro diritto di decidere secondo i patti umani dell'ONU, sì. Dove si dice che a tutti i popoli spetta il diritto all'autodeterminazione. C'è uno Stato occupante, in pratica. Sì. Uno Stato occupante. Sì. Contro gli Stati occupanti ci si ribella anche con le armi, volendo, a uno Stato occupante. No, abbiamo a disposizione tutti i mezzi democratici. Bene. A noi basterebbe la matita in mano e in una cabina di fare il segno se si vuole restare con l'Italia, andare con l'Austria o fare uno Stato sovrano sudtirolese. Scusi, la sua bandiera qual è? Cioè la bandiera italiana per lei che cos'è? Non esiste, non la riconosce? Non è la mia. Io mi identifico con la mia bandiera tirolese bianca e rossa. Benissimo, però quei soldi le vengono in parte anche dall'Italia, signora Clozza. No, non vengono dall'Italia, l'Italia non c'entra niente. Vabbè, d'accordo. Prego, le prego, l'Italia qui, non, in questo caso l'Italia non c'entra di male o di bene. Qui l'Italia non c'entra niente, non capisco come lei possa, cosa vuole sentire da Fräulein, me, povera Italia. No, perché dire che povera Italia, assolutamente. Andiamo avanti, le ho dichiarato tutto. Sì, e, assolutamente. E questo non ha capito che no, qui ho capito, abbiamo ho capito. Una legge propria per la trattazione. Ho capito perfettamente, ma quello deriva, ogni regione ha una sua propria legge. Ogni regione ha una sua propria legge, assolutamente. Sì. Assolutamente. Parenzo, dovevi chiedere qualcosa? Che dovevi chiedere? No, salutare Fräulein Fräulein sarebbe non sposata. Scusi, l'Italia è un grande paese, secondo lei? Grande paese, ottimo. L'Italia è l'Italia, no? L'Italia ha belle, come si dice, paesi, ha bellissime città, ho tanta gente che ci vuole molto bene, conosco altri non è che un grande paese. Mi odiano, perché no? Hanno grandi artisti, perché no? Perché no? Ma come grande hanno? Paese ha con tanti problemi. Non paese è dove il andare mio in vacanza? Paese, no? Non è il suo non paese. Non è il mio paese, ma rispetto alla patria di tutti. E Mattarella è il suo presidente? Mattarella, il mio presidente, come cittadina italiana. È il presidente dello Stato italiano, ma il mio presidente non è. E chi è il suo presidente? Non c'è, non c'è ancora. No. Dice la vorrebbe votare in uno Stato indipendente, giusto? Sì, sì. Ma cosa siamo, il Tirolo indipendente? O quello dello Stato al quale vorrebbe ritornare il Sud Tirolo. Grazie, buona serata, grazie, arrivederci. Grandi risate, Parenzo, facciamo grandi risate. Grandi risate. Italia non essere mio Stato? Non essere mio Stato, Italia? Fräulein. Essere Frau. Tirolo, io prendo però vitalizio. Vitalizio non è nemmeno italiano. Beh, su questo risponderebbe come qualunque altro. Anzi, dai, ha risposto come qualunque altro deputato regionale. Comunque, ricordiamo una cosa importante: cioè che da domani, 18 febbraio fino al 28, al Teatro Vittoria, Simona da Torino. Riondino. Accompagna Vergassola di Contrare Flaubert. Ma ragazzi, ma che sei scemo? Ma che fai pubblicità agli spettacoli teatrali? Ma cosa, sei impazzito? Simona da Torino. Ma sei veramente impazzito? Simona da Torino. È Vergassola, poverino. Ma vai a fare in culo, dai. Simona da Torino, dai. Dario ma chi se ne frega, dai. È uno spettacolo teatrale, non è un camionista che chiama parlando della pipì e della pupù. Dai. Basta con questo. Simona... Introdurre cultura, libri, teatro, Simona, musica. Simona, mi parli Flaubert, per favore. Vuoi far ci chiudere? Sono, ci sono. Chiudi la bocca a questo marchettaro, dai, ti prego. Simona, dai. Buonasera. Manco ci sono andato. Dai, Simona, dimmi. Ma intanto, vabbè, la Nazifrau, se gli sta bene il vitalizio, deve rimanere in Italia perché le è stato consentito di avere questa legge regionale grazie al Parlamento italiano. Quindi, anche alla Costituzione italiana. Esattamente. Però non riconosce l'Italia, vabbè, non riconosce l'Italia. Ma vuole l'indipendenza, molli il vitalizio e vadano pure. Beh, scusa, però non è che i leghisti, quando erano autonomisti, dicessero cose così diverse. Infatti, la stessa cosa, uguale. Quando erano per l'indipendenza della cosiddetta inesistente Padania. Ma non è che infatti li pigliamo per il culo. Infatti li pigliamo per il culo. Assolutamente uguale. Simona, un attimo solo che abbiamo la borsa, poi torno con te. Simona, Carlotta, Eugenio, Angelo e altri. Ma vi rendete conto che io per sentire a Zanzara sono dovuto andare dal dottore e farmi dare la pasticca per la pressione? Io gliela faccio più, ma pure Donato da Varese. Basta, basta. La Zanzara. David, ti ricordi, ieri abbiamo mandato in onda alcuni dei provini fatti, dei video mandati dai candidati dei 5 provini, Stelle. Hai detto bene, è un reality, hai detto proprio bene, provini. Vabbè, provini. Insomma, alcuni video mandati dai candidati 5 Stelle al Comune di Roma. Uno di questi, quello che era, com'era, il pittore di ruggine su tela. Pietro, un tale Pietro, credo, Pietro Calabrese, ha scritto: continui pure così a darci dei coglioni, continuate così. Guarda, caro Calabrese, non ho mai dato del coglione a nessuno che fa questo video, nella maniera più assoluta. Però deve capire una cosa, dato che vuole entrare in politica e si vuole candidare al Comune di Roma. Esiste una cosa che si chiama trasmissione radiofonica, talk show radiofonico, in cui tra le altre cose si prendono per il culo le persone che dicono certe cose e si fa ironia, eccetera eccetera. Non c'è nessun attacco premeditato, nessuno ha detto che sei un coglione, eccetera eccetera. Siccome in un video di presentazione citavi questa cosa qua della pittura di ruggine su tela, per candidarsi al Comune di Roma, ti abbiamo semplicemente preso in giro per questa cosa. Magari sarai un amministratore meraviglioso se entrerai al Comune di Roma. E intanto, Giovanardi, a proposito della vicenda del Senato, no? Dei furbetti del Senato, cioè quelli che mettono dentro il badge al Senato e incassano la diaria fino anche a 300 euro al giorno per un totale di 3.500 euro mensili, mantenendo dentro, è come se tu lasciassi, Parenzo, il tuo badge, se tu fossi dipendente, no, ma lasci dentro il tuo badge per tutto il giorno, tutto il giorno, in modo che tu risulti sempre presente. Ottimo. No, la stessa cosa alla Camera, con la piccola differenza che quando mi pare lodevole, mi pare un'iniziativa giusta che io appoggio in quanto Mario Cabanna, perché è dalla parte dei lavoratori, quello di entrare in un luogo di lavoro, starci il meno possibile sostanzialmente, perché negli è uno anni sfruttamento 60, perché è uno sfruttamento in vero e conto da parte di un'associazione che peraltro si chiama anche Confindustria, cioè ha anche l'ipo, si vanta di chiamarsi industria. Ma scusi, cosa Giovanardi, le pare un lavoratore, Cabanna, le pare un lavoratore sfruttato, eccetera eccetera, signor Giovanardi? Assolutamente, il diritto esiste, del deputato il di non fare un cazzo, di incassare il vitalizio, e anche in tascare, non c'è dubbio, negli anni 60 facevamo così, evidente, si entrava all'università, forse questo non l'ho mai raccontato cosa facevamo negli anni 60, entravamo all'università e dicevamo: vogliamo tutto, per cortesia, il 6 politico a chiunque, la laurea immediatamente, prende in 4 anni, benissimo, la prendiamo in 1, sei un ingegnere, devi studiare 5 anni, studi in 1, poi per forza che cascano i ponti, mi pare evidente, no? Mi pare straordinario. Allora, Giovanardi ha giustificato le assenze dei deputati, o comunque la questione del... Giovanardi? Sì, non Giovanardi, so perché al Senato, aspetta. Giovanardi... No, dai, Giovanardi... no, non so se parlava della questione dei cartellini, però senti che cosa ha detto: per essere in aula basta talk alle 11 di mattina, però basta anche non andarci. Non è che per forza bisogna andare ai talk. Non è obbligatorio. Cioè, non è la colpa, la colpa non è di quelli che creano i talk alle... Non Ma per chi difendere. L'ha detto Giovanardi, senti. Ah, Giovanardi. Senti. È amico tuo. Aspetta. I vostri colleghi, giustamente, non facciano più trasmissioni televisive né martedì, né mercoledì, né giovedì, invitando i parlamentari, perché per esempio se un parlamentare alle 11 del mattino parte di corsa di qua per andare alla 7, per andare a Sky, per andare ai vari TG, per fare un'intervista, no, ho detto non lo facciano più, perché se i giornalisti fanno delle trasmissioni in quegli orari, è chiaro che il parlamentare nel momento in cui è là e sta svolgendo una sua funzione, perché lo invitano, perché c'è bisogno del pluralismo, non può essere qua. Cioè, ma siamo arrivati veramente al paradosso. Adesso, su su questa cosa qua non posso. Giova è un grande. Lo devo attaccare. A Giovanà, hai detto una cazzata, ma non puoi dire che andare attento che arriva la querela, attento, no, che poi ti querela. Andare nei talk show non può essere una cosa di pluralismo. Cioè, non è che se non ci vai, non è che viene minato il pluralismo, è pure meglio se non ci vai in generale. Cioè, ma roba da matti, ma come si fa a dire che la colpa è di quelli che, a meno che non scherzasse, la colpa è dei talk show e non di quelli che non vanno in Parlamento e fanno il trucco del cartellino? Dai, su. Allora, Don Fanzaga ritira le parole sulla Cirin, ci ha messo un po' di tempo, alla fine, dopo aver detto no, non ho minacciato nessuno, non voglio la morte di nessuno, non ha detto questo, ma avete capito male, hanno estrapolato le mie frasi, eccetera, eccetera, dopo 10-15 giorni arriva il pentimento cristiano di Don Fanzaga. Io sono deferito all'ordine dei giornalisti perché ho detto che insomma la Cirinà adesso printa prosecco, ma un domani ci sarà il giudizio. Io quelle parole lì sottintese male le ritiro, dico io rotondo. E le parole sottintese male come si augurarsi da mo, no, le ritiro, perché comunque diciamo le ritiro ufficialmente, insomma non dovevo dirle, non vanno bene. Oh, ha paura del deferimento! Ha paura del deferimento! All'ordine dei giornalisti, Don Fanzaga, se la fa sotto! E allora ritira le parole! Solo per questo, forse, no? Solo per questo! Vergogna! Vabbè, dai! Angelo, provincia di Taranto, no, c'era Simona, vai Simona. Eccoci. Vai, dimmi. Eccoci. Niente, io volevo spezzare una lancia a favore di coloro che non si fanno troppe docce. Oh, finalmente una cosa seria, un argomento serio, no? La stepchild adoption, i froci, eccetera, eccetera. Esattamente. Poi torniamo fra poco. In dermatologia, se si fa troppe docce, si elimina lo strato corneo della pelle. Tu sei dermatologa? No, però sono stata da un dermatologo, avevo problemi di allergie, sì. E quindi è venuto fuori questo discorso, mi ha detto non si faccia troppe docce perché si elimina questo strato superiore della pelle che è una difesa naturale. No, ma è giusto, ha ragione della lei, pelle. Ma, scusate, sì. Se non avete cura di voi stessi chi se ne frega, ma anche degli altri e di chi vi sta intorno e deve sopportare il vostro olezzo, ma no, ragazzi che... miei, andate a vivere, scusate, da un'altra parte. Ma come, voglio dire, mette troppo profumo, cioè è bruttissimo. Ma quello, ma certo, ma cosa profumo c'entra? No, scusa, però, Simona, però, scusa, sì. Simona, ma tu quante docce ti fai? Ma dipende, cioè dipende da... Io faccio un lavoro molto dinamico e quindi sono costretta a farla una volta al giorno, insomma. Costretta, però... bellissima, costretta a farla una volta. Sì, perché sì, pure a te l'acqua un po' addosso dà fastidio, diciamo la verità. Sì. Lo vedi, sì. Parenzo, cioè l'acqua addosso dà fastidio. Lo vedi, ma non è che mi stai, come ma dire, argomentando... Ma si secca la pelle. No, cioè, al di là di questo... Hai fatto uno scrub, Cruciani? L'hai mai fatto No, scrub? Dammi del tu lo scrub, sì, l'ho fatto. Okay. Sì, ma mi dà a me l'idea dell'acqua, per esempio la mattina mi sveglio, l'idea di mettermi l'acqua addosso è proprio una cosa che mi fa stare male, capito? Mi fa stare male. Fa stare male le persone a cui stai vicino che puzzi come una capra. No, ma l'idea di mettermi sotto la doccia la mattina alle 8, una roba terribile, terribile. Ma io immagino che Cruciani tu corri, giusto? Sì, certo, dopo la corsa, amica mia, dopo la corsa è chiaro. Però non solo, cioè nel senso che nel momento in cui si fa anche molto sport e c'è una sudorazione maggiore, anche il sudore non sa più odore, perché comunque ci sono tossine, sempre meno tossine. Puzzo come una bestia quando finisco di correre, ti posso assicurare. Puzzo come ma adesso capito come mai c'è Parenzo in un'altra, in un altro studio, Roma, in un'altra stanza. È a Roma, amica mia. Ciao, ciao. Vabbè, una scelta, ciao. Ciao. Carlotta, Venezia, Carlotta. O magari mi dicono che puzzo, ma non me l'ha detto nessuno. Magari perché me lo la dicono, gente è educata. Non me la dicono per pudore. Perché ma le non persone credo, sono dai. Educate, appunto. Certo. Ma non credo, dai. Carlotta, dai. Pronto? Te lo dico io. Dimmi, Carlotta, cara. Pronto? Buonasera. Volevo fare un intervento invece riguardo appunto alle adozioni Dimmi. Parte di coppie omosessuali. Vai. E volevo dire che io, essendo una studente del liceo, se mi capitasse qualcosa di brutto, per come la studentessa del liceo, quanti anni hai, scusa? Io ho 14 anni. 14 anni. 14. Sì. Possiamo fare 14 anni, David? Sì, possiamo. Non è la TV, è la radio, certo, penso di sì. Non lo so, sta ascoltando la trasmissione con ma credo che abbiamo chiesto autorizzazione al padre quando con un chiamato, adulto sì. vicino, sì, sì. immagino. Sì. sì, abbiamo chiesto perché hanno chiamato, adesso me lo ricordo, sì, hanno chiamato prima al centralino. Va bene, Carlotta, dimmi, sì. allora 14 ecco, anni. Io volevo dire che a me non darebbe per nulla fastidio, anzi. Cosa? Venire adottato da una coppia di omosessuali, da una coppia di composta da due uomini. No, da ma due tu hai padre e madre, no? Sì, io sì. Padre ma... e madre, etero, cioè un uomo e una donna. Sì, etero sì. non lo so, magari no, però... No, sì, no, etero. Etero. Allora, che cosa vuol dire? Che se non avessi più, diciamo, nel malaugurato sì. caso che tu non avessi più i tuoi genitori? A me non darebbe per nulla fastidio essere adottato da una coppia omosessuale, piuttosto che andare appunto... Non ho orfanotrofio. Cioè, meglio perché... la coppia gay dell'orfanotrofio, tu dici. Cioè, sì, tu perché... se dovessi, non te lo auguro, naturalmente, non te lo auguri nemmeno no, te. Se dovessi essere nella situazione di essere adottabile, sì. a 14 anni non ti dispiacerebbe essere adottata da una coppia no, omosessuale. No, assolutamente. E come mai perché... ti è venuta in mente questa cosa a 14 anni, Carlotta? Beh, innanzitutto perché comunque, a parte che nel mio liceo ci sono molti più ragazzi gay che ragazzi etero. Beh, questo però, scusate, questo non ho capito. Nel tuo liceo sono molti più froci che eterosessuali. No, cioè, sono molti più gay che eterosessuali nella tua classe? Nel liceo? Praticamente sì. Sì, e questo anche per dire che moltissimi miei amici appunto sono gay. E quindi ho iniziato a farmi delle domande e ho pensato che comunque, se potesse capitare qualcosa di brutto, non lo augura nessuno. Siccome ti piace quel mondo, evidentemente, trovi... No, e che ne so, magari hai delle tendenze di... pure te. Io sono estero e tutto. Però io penso che comunque l'importante sia vivere una famiglia che ti ama. E questo bene. E questo è giusto, e questo è giusto. E questo è quello che penso, io, sai. Ma lei, scusi, così giovane, perché ascolta la Zanzara, ad esempio... E non perché... un programma di musica classica o ma perché dovrebbe un programma sentire di libri, la musica classica a 14 anni? Io non ho capito, abbiamo ascoltatori di 14 anni e Parenzo sì come i Tafazzi si dà le martellate sui coglioni. Sì. Dice, dalle scusi, no, perché lei ascolta questa trasmissione e vorrebbe dire di pervertiti, eccetera, eccetera. No, vorrei, come vorrebbe? Lo dice? ma voglio dire, ma è incredibile. Mi stupisce che una ragazza... Cioè, ma perché ti stupisce? Cioè, a me non stupisce per niente. Bisognerebbe fare una trasmissione alla radio in cui, ad esempio, si legge Dostoevskij. No, io non ho visto perché una... Ma che cazzo gliene frega a Carlotta Dostoevskij? Vuole ascoltare cose di libertà, di attualità, un posto in cui si parla chiaro. Signorina, perché a 14 anni si ascolta la radio a quest'ora, peraltro, la Zanzara? Perché innanzitutto io finisco a scuola tardissima, la finisco alle 6. Sì. Faccio il liceo classico europeo. Molto bene. Liceo classico europeo. E perché ascolti la Zanzara? Tornando da Venezia, mio papà ha messo questa stazione radio, hanno toccato un argomento che comunque a me è molto caro. Perciò ci tenevo a dire anche la mia. Vabbè, non ci hai detto perché ti fa schifo la Zanzara, ascolti la radio? No. Mi piace anche, l'ascolta mio padre, quindi a sua volta... Certo, quindi unisce le generazioni, questa è la notizia sostanzialmente. Vabbè, ciao Carlotta, ciao. Vabbè. Ciao cara. Ok, ciao, grazie. Oggi è la giornata del gatto, caro Parenzo. C'è anche un messaggio della Boldrini, che non poteva mancare naturalmente, senso, nella giornata, scusami, mondiale del gatto, un pensiero a questi amici senza i quali tanti di noi si sentirebbero più soli, e posta la foto del suo gatto. Noi vogliamo ricordare la giornata mondiale del gatto invece con un audio che vi sarà caro, con un audio molto gentile nei confronti dei gatti, il signor Bigazzi. Domani è giovedì grasso. Giusto. Che in Valdarno si chiama Berlingaccio. Però c'è un proverbio. Berlingaccio, chi una ciccia ammazza il gatto. Perché siamo a febbraio, febbraio gattaio, e uno dei grandi piatti del Valdarno era il gatto in umido. No, Otello in umido no. Perché la gente non mangia il coniglio, non mangia, no, mangiamo i gatti, il pollo, tanto ce ne sono, non mangia, non mangia il piccione, eccetera. Il gatto, tenuto 3 giorni nell'acqua corrente del torrente Ciuffena, viene fuori con le sue carnine bianche, e t'assicuro, io l'ho mangiato tante volte, t'assicuro che è una delizia. E per questo fu cacciato dalla Rai. Fu cacciato dalla Rai. Io, come te credo? Ma che siamo matti? Te credi? Io l'ho difeso fino alla morte, Bigazzi. Sei impazzito, te credo. Ha fatto benissimo a ricordare quella cosa, quella tradizione che non c'è più, naturalmente. Ha detto l'ho mangiato tante volte. Ha illustrato una grande tradizione. Oggi, nella giornata mondiale del gatto, vogliamo ricordare più che il gatto come cibo, che chiaramente. Bigazzi, vuoi ricordare? Voglio ricordare Bigazzi, sì. Voglio ricordare un grande personaggio, mica è morto, è vivo, eh. Un grande personaggio dalla Rai, cacciato dagli animalisti, dai nazi animalisti. Ma è con noi, grande ritorno alla Zanzara, il direttore del Messaggero Veneto, Tommaso Cerno. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Che meraviglia. Bene, bene. Anche oggi non ci sposiamo. Anche oggi nulla. Anche oggi nulla, nulla, niente matrimonio. Allora, però, Cerno è un personaggio talmente meraviglioso che ha su Twitter, caro Parenzo, proposto una cosa, lo sciopero fiscale dei froci. Ma ha scritto proprio così, eh? Com'è che hai scritto, Tommaso, esattamente? Ho scritto che io non pagherò più le tasse e invito i froci, come me, a non pagarle più. Bellissimo. Casomai istituiamo una tassa di 1 euro per ogni errore di grammatica nei discorsi in Senato, in un anno saniamo il debito pubblico. Allora, no, ma la cosa delle tasse è interessante. È stata tratto... Ma è vera, è la democrazia resistente, no? Perché se la Costituzione dice che i cittadini sono uguali, se si stabilisce che non sono uguali, non sei cittadino. Se non sei cittadino, le tasse le paghino gli esteri. Ora, però, mi fermo un vigile e io gli dico: scusi, io non esisto. Questa multa la dice la signora lì di fronte, che è etero ed esiste, e la pagherà lei. Tu stai dicendo, allora, se è una provocazione, o dici sul serio? Cioè, la prossima volta che ti fermo un vigile per strada, tu che cosa gli dici? Ma non pago le tasse, quelle che posso non pagare. Cercherò anche di capire, essendo un dipendente, se posso assumermi la responsabilità penale di chiedere alla mia azienda di non pagarle per me. Bellissimo. Poi vado in tribunale, vado in galera come Mandela per i diritti umani, vado in tribunale e dico: scusate, non esisto, chi state processando? Qui non c'è nessuno. Cioè, allora, cerchiamo di farlo, magari finisce dentro. Sì, perché per lo Stato, siccome, è vero, non siccome, esiste per siccome lo Stato. L'idea è a suo modo geniale, voglio capire però se è applicabile e soprattutto se è seria. Cioè, Tommaso, tu veramente hai intenzione di fare lo sciopero fiscale da seria, omosessuale, perché... frocio, come dici tu, senza paura di utilizzare, per fortuna... Io sono frocio più che omosessuale, perché ho preso talmente tanta coscienza di me e non ho paura delle parole. Capisco che in Italia... tu dici non vedente e pensi che questo riprende la vista. Io magari dico cieco e lo accompagno di là della strada. Quelli lo chiamano non vedente, lo lasciano in mezzo e magari lo prendono sotto. Quindi non ho paura delle parole, ed è una cosa seria. Si chiama democrazia resistente, cioè quando tu hai degli interessi politici più alti degli interessi umani dei tuoi cittadini, è giusto che i cittadini usino gli strumenti che hanno. Quali sono? Rispondere resistendo alla democrazia. Siccome in Italia la democrazia è sostanzialmente lo Stato, è sempre presente in un unico momento, quando toglie denaro dalle tasche, fai lo sciopero fiscale degli omosessuali fino a uguaglianza avvenuta. Ma quanti... Io qualcuno l'ha anche già fatto, Dolce Gabbana mi pare che su qualcosa avevano, diciamo... da dire col fisco già, quindi sono partiti prima di me, però lo faccio per un motivo ideale. Poi hanno vinto però la causa. Vedi, vincerò anch'io. Sì, sì, potrebbe essere una grande cosa. Una proposta. No, no, adesso sto cercando di capire quanto può incidere sul fisco questa roba. Sì, se tutti quanti gli omosessuali facessero lo sciopero fiscale, sarebbe sicuramente andassero sotto il Parlamento sventolando intanto cominceresti a vedere improvvisamente che in Italia ci sono 15 milioni di omosessuali all'improvviso. Sì, sono gay anch'io, tutti gay sarebbero. È vero, quindi sì, almeno sì, diventi una specie di San Francisco. E la cosa dei vigili è interessante, cioè se ti fanno la multa tu dici no, guardi, io non esisto. Sta facendo la multa a un fantasma. Esattamente, non esistendo io non posso produrre sinistri, quindi non esistendo lei deve rivolgersi a chi esiste. Chi esiste sono gli eterosessuali, quindi o se la paga lei o la fa pagare a qualcuno che esiste. Allora ti leggo alcuni degli emendamenti che verranno discussi, forse se mai questa cosa riprenderà la discussione. Uno a firma di Mario Mauro: sostituire le parole unione civile con le seguenti: un'associazione con finalità di assistenza reciproca. Un altro che è sostituire le parole unione civile con le seguenti: un'associazione con scopi mutualistici. Un altro, Malan, Forza Italia: sostituire le parole unione civile con le seguenti: un'unione renziana. Malan, sempre Malan: un'unione con le seguenti: una società economica per la gestione di abitazione. Sempre Malan: sostituire la parola civile con le seguenti: economica di gestione domestica. Allora, questi qua cosa sono secondo te? Allora, fascisti? Sono questi. Quelli che descrivi? No, non sono fascisti. Magari fossero fascisti. Nessuno. Io ho appena finito di dire che il fascismo in fondo va rivisto da un certo punto di vista, c'è scritto un libro sopra. Questi non sono fascisti, perché Almirante, quando faceva ostruzionismo in Parlamento perché voleva affermare la sua idea rispettabile, nessuno pretende che Gasparri la pensi come noi o come me, ognuno la pensa come vuole, stava 11 ore in Parlamento a parlare un italiano perfetto per convincere con la fatica e il sudore che c'era un'idea. Non faceva con il computer inventato da un frocio di nome Turing, castrato chimicamente da gente che la pensa come loro, miliardi di emendamenti che non hanno neanche letto, per usare l'ostruzionismo in modo del tutto aberrante e destituire il Parlamento anche della voce, però, della lettezza del linguaggio. Non parlino. Ma lui riconosce la battaglia politica di questi qui, aveva perfettamente ragione, la statura politica. Ho capito, però loro utilizzano, ma anche la fatica. Cioè, certo. Se tu vuoi opponiti con degli argomenti sostanziali, non giocando con i programmi che modificano le parole, moltiplicano gli emendamenti. Ho capito. Cioè, hanno perso di opporsi. Da chi sono fatti questi programmi? Poi hai detto da un frocio, la storia del codice. Il computer l'ha inventato Alan Turing era un frocio, quello che ci ha fatto vincere contro Hitler, che per tutto, diciamo, ringraziamento del mondo occidentale e della visione di cui questi fanno parte, fu castrato chimicamente. Però ha inventato il computer. Ma l'hanno cosa ha inventato? Qualche sinonimo. Ma scusa un attimo, tu come consideri Gasparri? Cioè, signor Gasparri, che è uno dei più... Una persona rispettabilissima. Gasparri ha le sue idee, le afferma in maniera molto colorata, com'è il suo carattere, le deve mantenere. Quando Loris Fortuna fece il divorzio, non erano d'accordo con lui neanche i socialisti. Nessuno può chiedere che un paese la pensi allo stesso modo, ma un conto è parlare, discutere, scannarsi, odiarsi, fare una battaglia politica e votare, e l'altro inventare un emendamenti. Conto è perdere tempo e fare casino perché si vuole cambiare il governo, il sottosegretario, mettere in difficoltà Renzi e parlare d'altro che non dei diritti umani. Allora ci fermiamo un attimo perché Cerno ha proposto lo sciopero fiscale dei froci, e la parola froci, oltre che utilizzare io da un sacco di tempo, la utilizza lui perché dice giustamente: mi sono liberato da questa cosa assurda delle parole perché sono realizzato. A tra poco. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. La zanzara. Ma dove cazzo è questo casello di Carisio? Voglio capire, voglio andare al casello di Carisio per svellicarmi dalle risate. Voglio andare in pellegrinaggio al casello di Carisio. Dove cazzo si trova? Tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made. Allora io vorrei rimettere Bonolis, sia sull'omosessualità come fatto naturale, come l'ossigeno nell'acqua, sia sui figli meglio nelle coppie gay che con le suore, perché mi sembra che siano due cose fondamentali. Poi ovviamente capisco che ci sono molti ascoltatori della Zanzara che non la pensano come me, e forse in questo caso, al contrario di quello che sostiene Parenzo, non sono un qualunquista. Questo hai detto, Parenzo, in una trasmissione radiofonica. Devi farlo ascoltare, però hai estrapolato no, il contesto. Non ho estrapolato una mazza, hai detto sono un qualunquista. E ho detto anche dell'altro. In questo però. Caso, fallo credo, tutto, sostenendo manda da anni... Manda l'integrale. Sì, sostenendo... Ti denuncio in procura, altrimenti, manda l'integrale. Sostenendo da anni... No, lei ha essere... usato la solita tecnica. Lei ha estrapolato un pezzetto della trasmissione dell'emittenza. No, hai detto che sono un qualunquista. Beh, no, però, non c'è dubbio. No, ma in questo caso ti dico, in questo caso ti dico. In genere sei un qualunquista. No, in questo sì. caso io sono da tempo populista anche, ma non sì, è vero, sì, io sì. da tempo sono favorevole al matrimonio esattamente questo. Come quello tra etero. Ma questo anch'io. Esattamente e all'adozione esattamente come quella tra gli etero. Allo stesso modo, perché un bambino può crescere tranquillamente anche con l'amore di due donne e di due uomini. E invece di questa follia della legge Cirinà, che per carità dà alcuni diritti, per va bene, però bisognava cambiare con un rigo il codice civile e dire le stesse cose che sono in vigore per gli omosessuali e per gli eterosessuali saranno in vigore anche per persone dello stesso sesso, punto e basta. Avere le palle invece di impelagarsi a trattare con Grillo i canguri e le Cirinà e i Cattodem e queste puttanate, avere le palle di farsi bocciare una legge dal Parlamento, questo bisognava fare. Bonolis. Non mi sono mai posto il tema dell'omosessualità nella mia vita, anche quando me l'hanno chiesto ho detto non ci ho mai pensato, come non ho mai pensato se fosse giusto o sbagliato che ci debbano essere due molecole d'ossigeno nell'acqua, cioè non ci penso, è una cosa naturale, appartiene all'arcobaleno della vita. Quanto ai figli, credo che i figli se possono vivere in una famiglia fatta da padre e madre, che siano due donne o due uomini o un uomo e una donna, cambi poco, sempre meglio che con sette suore, insomma, secondo me. Abbiamo con noi Tommaso Cerno, direttore del Messaggero Veneto, nonché, vabbè, insomma, inutile dirlo, ma non è una categoria, ma stiamo parlando di questo, è omosessuale super dichiarato, il quale, oltre ad aver... lanciato qui alla Zanzara lo sciopero fiscale per i froci, anche un manuale, direi, Tommaso, no? Manuale potrebbe essere: al primo punto vi fermano i vigili, rispondete che non esistete per lo Stato e quindi non vi fermate e le multe quello le pagano. Primo punto. Adesso verranno tutti gli altri punti, faremo un manuale 10-15 punti, perché sennò sembriamo un MS della legge cerinale. Ma tu ti sposeresti o no? No, ma io, a me nessuno mi vuole, quindi come... Ma no, sei fidanzato, so, sei fidanzato. Ma il fidanzamento è una cosa interiore, il matrimonio è una cosa sociale, sono due cose diverse. Uno si tiene finché io non credo che nessuno direbbe sì. Finché da dire vabbè, dicono. Però quello è ma un problema mio. D'accordo, quello però è un problema tuo. Però ti sposeresti o no? Dici? Cioè, ti sposeresti o no? Se ci fosse questo istituto, ti sposeresti oppure pensi che sia... Se sono innamorato al punto da sposarmi e c'è l'istituto, mi sposo, se no non mi sposo. Però il problema mio è che comunque acquisisco il diritto di essere celibe invece che il dovere. Quindi anche se non mi sposo, sì, ho sì, lui, in più certo. di essere celibe per scelta. Luca, non sei però, contrario al matrimonio, sei sulle mie posizioni o no? Sul matrimonio? Sì, ma guarda, io ho ascoltato quello che tu hai detto, e tra l'altro ti do ragione per un motivo diverso da quello che dici tu. Perché vedi, Cameron. Che è la destra più avanzata d'Europa, sì. è quello che dici tu. Sì. Allora, noi possiamo domandarci se Giovanardi è più intelligentemente di destra di Cameron? Possiamo domandarcelo. Evidentemente la risposta, se facciamo un sondaggio, sarà che Cameron forse rappresenta un po' di più la destra europea. Allora, perché la destra europea avanzata vuole il matrimonio e non le unioni civili? Perché la destra, che si basa sulla famiglia tradizionale, prima patriarcale, poi coniugale, e tutte le sue vicissitudini sociali sono messe in questo nucleo, ha capito che l'unico vero istituto in crisi in questo momento in Occidente è il matrimonio. E per tirarlo e su? Per salvarlo lo devi aprire a tutti. Se tutti si sposano, nessuno lo discuterà più. Quindi la destra, quella avanzata, non farebbe mai le unioni civili, perché le unioni civili possono diventare un matrimonio più semplice a cui proprio gli etero prima o poi tenderanno. E noi avremo l'etero pride, avremo gli etero che chiedono le unioni civili, perché il matrimonio sarà troppo pesante e i gay saranno fortunati. Quindi la destra, quella avanzata è sulle posizioni di... Senti, ma tu dai la colpa ai grillini per questa storia del super canguro o tutta colpa del Partito Democratico? Non puoi dare in una democrazia la colpa all'opposizione, è troppo comodo. C'è un pasticcio lì, al PD. Ma è chiaro, se il PD non ha un'anima chiara, perché non ha una fusione di è così. E ha dei veti, l'opposizione può comportarsi in maniera più o meno ideale, ma se tu dai la colpa all'opposizione sei un fascista, allora sì che lo sei. In una democrazia è colpa della maggioranza se una cosa non funziona. Ma poi ragazzi, comunque io sono, per carità, ma si può mettere in una legge il fatto che le unioni gay si chiamano formazione sociale, non so come si fa? È una cosa ridicola. Ipocrisie lessicali. Una cosa ridicola. Beh, l'Italia è fatta di queste cose, no? Sì, ho capito, però dai, su, non si può... In questo senso è molto italiana, ecco. Poi il problema vero è che si è creato un meccanismo, pensa al Fano che non esiste, torna a esistere grazie ai gay, cioè i gay hanno questo potere di far esistere chi non esiste. Alfano che ha votato qualunque schifezza, qualunque cosa sì, e voterebbe ancora la e voterebbe pure la schifezza delle unioni gay senza l'adozione. Ma tu un bambino lo adotteresti? Cioè Bendola che va a Bendola vuole adottare un bambino, sì, è andato in America. Ma io dico, i bambini non li ho mai sopportati, devo dire la verità, nemmeno me stesso sopportavo. Però siccome sono cresciuto dalle suore, devo dire che rispetto a quello che ha detto Bonolis, a me le suore mi hanno fatto diventare un personaggio straordinario. Quindi non sempre le suore sono negative. Dopodiché non so se io sono gay. Ti hanno fatto diventare gay le suore, stupendo questo. Hanno fatto non lo so, il primo bacio a un uomo l'ho dato a 6 anni ed ero con le suore. Quindi a 6 anni il primo bacio. Quindi devi ringraziare uomo. Le suore, hai ragione. Sì. Ti innamori a 6 anni. Ma tu sei mai stato con una donna? Io ero innamorato di Tetsuya, era il pilota di Mazinga, e compravo tutti questi robot. E mia mamma dice, vedi che ho fatto un maschione, mentre io li compravo perché ero innamorato del pilota. Quindi anche lì, capito, i giochi con le bambole, non è mica vero. No, è vero, infatti Cruciani giocava con la Barbie. Ma io non ho mai giocato. Un uomo senza ombra di dubbio. No, io non ho mai giocato con la Barbie. Me l'hanno detto a casa tua, che prendevi il Big Jim e la mettevi bisogna sopra la Barbie. Che ci faceva, però. Esatto. Faceva delle porcherie, metteva scusa, il Big Jim sopra la Barbie. Scusa, ma non ho capito, ma tu sei mai stato con una donna, Tommaso, oppure sei sempre stato con uomini? Ci sono state molte donne che hanno voluto venire con me, però diciamo sono fermate prima della cintura. Cioè tu non hai mai avuto, diciamo, perché molti omosessuali che io conosco, amici miei, hanno passato un periodo di eterosessualità, cioè hanno avuto rapporti sessuali con le donne. Gli eterosessuali che conosco io vanno con gli uomini e poi dicono che sono etero. La sessualità è una cosa molto complessa. Perché la bisessualità non esiste in realtà, la bisessualità maschile. Esiste, perché, cioè, maschile. Esiste nel senso che tu puoi fare tutto, ma di fronte a una scelta sai cosa scegli. Cioè soprattutto quando non devi scegliere. La bisessualità maschile è molto rara, perché di solito si trasforma in chiara omosessualità, diciamola tutta, dai, su, o no, Tommaso? Sì, e poi nel tempo si classifica in maniera diversa, no? Adesso la gente dice ci sono più gay di una volta, non è vero, semplicemente si manifestano con più facilità. I ragazzi più giovani omosessuali oggi non hanno nessun problema a dirlo. Non temete, anzi, non temete questa sessualità. Non temete l'epidemia gay. Qualcuno dice introduciamo questa legge e allora ci sarà l'epidemia gay, l'umanità scomparirà. No, non è mai scomparsa. Ma veramente se l'umanità scompare è colpa degli etero che non fanno più figli, quindi casomai è un problema loro. Adesso manca soltanto che gli gay hanno anche le colpe della famiglia. Qualcuno dice, vai a sentire Gandolfini o altri. Senti, ma l'utero in affitto è una cosa schifosa o no? Io sono contrario a dunque quello che fa Bendola non ti piace? Io sono contrario a questa pratica. Una volta ho fatto una battuta trash che non posso ripetere. No, ripetila. Qui siamo. Ho detto che già quello gratis non mi piace tanto, figuriamoci in affitto. Però il tema è, dietro lì c'è il problema chi ospita. E noi non siamo un paese in grado in questo momento di garantire che questa norma avvenga davvero dentro regole che rispettano i diritti umani di alcune persone. Beh, in America non mi pare che la cosa sia... Cioè... Però credimi che anche lì non è una questione di destra o di sinistra. Esplorare questo tema dentro una legge che ti dice soltanto che tu riconosci. Sì, no, ma sono due cose diverse. Certo. È un errore. E chi ci casca nel gioco di una destra più chiusa e di un cattolicesimo più reazionario, che butta sempre dentro queste cose quando stai parlando d'altro. E ogni volta ci cascano sempre i gay, perché i gay sono un po' ingenui. Va bene. Ciao, ciao Tommaso, ciao Tommy, Brucida. La Zanzara. Grande concorso, caro Parenzo, grande concorso lanciato dalla Zanzara. Questa non la sai, me la sono inventata ieri, ce la siamo inventata ieri in realtà, qui a Milano. tu non sai nulla di questo grande concorso. Quel trust di cervelli lì. No, no, bello, allora, bello. La cosa è questa. Ci sono molti appassionati tra gli ascoltatori di film hard, no? Di film hard. Stai attento, non è una porcheria. Sì. Però anche tu hai detto, anzi un ascoltatore, no, ti ha suggerito un film una volta, ti ha suggerito un film, sì, da... un film da compulsare, no? Ogni tanto qualcuno mi dice: perché non consigli a Parenzo di vedere un film? In fin dei conti esistono anche film artistici tra i film hard. Allora, indovinate che film hard è questo. Questo è il concorso. Vi faccio sentire alcuni passaggi di un film. Cominciamo così, Pensa se lo indovina Don Fanzaga. Questo è un piccolo passaggio di un film hard tra i più conosciuti. Se solo ti decidessi ad aprire le tue belle gambe, i signori pagherebbero dei bei soldi e noi faremo una vita migliore, ma tu no, tu sei onesta, tu. Meglio povera che puttana. Questo è molto significativo. Un grande dialogo, diciamo, alla Luchino Visconti, di quelli che piacciono a te, no? Sì, no, questo era... Infatti mi sembra di averlo visto. Meglio è famosissima la frase, aspetta. No, no, non lo sai, secondo me, non lo sai. Ma voglio sentire il primo, voglio sentire il primo che chiama e mi indovina il film. Fate risentire l'audio. Indovinate che film hard è. Molto difficile, lo capisco. Però tra i cultori della materia non dovrebbe essere nemmeno troppo complicato. Se solo ti decidessi ad aprire le tue belle gambe, i signori pagherebbero dei bei soldi e noi faremo una vita migliore. Ma tu no, tu sei onesta, tu. Meglio povera che puttana. Meglio povera che puttana. Capito? Tra i film... tra questo i film hard c'è anche la storia, c'è anche una trama, che si rifiuta, capito, di fare la puttana e di allargare le gambe, come dice, non so chi era quello, se questo il padre o il magnaccia o io il proprietario. Io ho capito qual è. No, non lo puoi sapere, no, ma devi stare zitto comunque. Anna da Bolzano, anzi no, Federica da Parma, non lo dici, no, assolutamente, non lo devi dire, no, assolutamente. Sono indovinato anch'io, però. No, scusa. Ma non l'hanno, ma puoi aver indovinato, dai, Federica da Parma, dai. Federica. Cruciani, eccomi, buonasera Parenzo. Dimmi Federica. Ciao, allora, argomento patata. Di nuovo, alle 20:13, come nel ieri sera, purè. Come Ilaria. Il purè, esatto, vuol parlare del purè. Volevo proprio rispondere ad Ilaria, in quanto non grande scontro tra cervelli. La patatina pelata, che lei non ama, a favore invece di quella, diciamo, più barbuta. Sì, sì. Io credo che sia una questione di gusti individuali. No? Beh, su questo, vabbè, adesso, se hai chiamato solamente per dirci una questione di gusti individuali, sì, amica mia. Sì, certamente. Quindi vabbè, non... ma quello va da sé. Non trattarmi male, dai, Cruciani. Non ti sto trattando male, però mi puoi dire, è questione di gusti individuali. Sì, è questione di gusti individuali. Cioè, mi pare io, normale, esempio, mi depilo integralmente, ma perché mi trovo bene. Che dolore, che dolore personale, che una fitta al cuore, so, una fitta, tu una sei fitta. Un po' di quella, ma io direi più patata libera per tutte, senza troppe etichette, cioè ognuna la tenga come vuole. Ma questo va da sé, nessuno, mica siamo islamici noi, non è che siamo islamici. Appunto, io credo che per esempio tra gli islamici... La patata voleva fondare questa... Vabbè, lei vuole fondare il club delle hairy pussy, come si dice, no? Magari sbaglio sicuramente la pronuncia, cioè della foresta contro la depilazione. Però la questione è molto semplice. Io credo che per esempio nell'Islam, caro Parenzo, la depilazione sia vietata. Cioè se una donna si vuole depilare... No, questo non mi pare. Secondo me nella depilazione, non lo so se è una cosa a me... Non lo so, me lo domando. Vabbè, Federica, io non ho capito, tu lo fai per una questione di igiene? No, non soltanto, mi sento più libera, più... È più piacevole anche indossare i vestiti, anche nell'intimità devo dire. Poi dopo anche questo è soggettivo, dipende dai punti di vista. Per esempio a te so che non piace. Ma non è che non mi piace, adesso non esageriamo. Preferisco più liberi, più... Io conosco anche uomini, sai, che si depilano. Sì, a volte ne conosco un sacco pure io. Uomini depilati, una cosa terribile. Non è una questione di moda, soprattutto alcuni la ritengono una questione anche di igiene. Sì, l'igiene, eccetera, non si capisce poi questa cosa di igiene. Anche i capelli, allora, no? Anche i capelli da questo punto di vista. Cioè, che vuol dire? Sì, vabbè, dopo lì allora potremmo... Non è che i peli da soli... Non è che da soli i peli portano sporcizia, insomma. No, assolutamente no, però... Immaginati. Quanti no, anni hai tu, Federica? 29. E il tuo fidanzato, se ce l'hai? 40. 40 anni. Sì. Lui sì. Naturalmente è d'accordo su questa cosa. Sì, sì, assolutamente. Cioè, non è un sauvage come me. No, assolutamente no. Pensa lui che sente alla radio la fidanzata che parla di questa ma cose. Qual è il problema? No, sei tu. Sei, purtroppo non è con me perché te l'avrei passato. Non è con te, però ascolta, sa che tu vuoi intervenire e parlare della depilazione, dei tuoi aspetti intimi. Ma è normale, Parenzo, è assolutamente normale, non è una cosa complicata, nel vostro ma è normale. Mondo perverso, ragazzi, lui, miei, lei però... ha chiamato per dire una cosa in maniera molto io carina. Non è che sto accusando molto... nessuno. Non è che ha detto, oh, io sai, me depilo perché beh, me piace. Ecco allora, ha detto in maniera molto chiara, in maniera molto, molto carina, molto soft, anche molto no. Sì, è molto elegante. Molto elegante, ecco, il fatto, l'igiene, benissimo. La depilazione, tutto. Mi è cambiata la giornata, guarda adesso. Oddio, Federica, digli qualcosa a Parenzo, ti prego, perché non... Cosa che non gli so, dica? Di cosa, che ne so. Sì, c'ha ragione, cosa vuoi che metta, no, non è che si metta a commentare. Tu è caduta, pubblicità. Cruciani, Parenzo, io ce l'ho pelosa. La Zanzara. Alle 20:20 di ieri è tornato a farsi sentire il leader, il nostro leader. Io sono uno dei 12 milioni, fronte di liberazione di Donato. Donato da Varese for president, è il numero uno, grande Donato! Ragazzi, ieri è tornato Donato, eh? Ieri è tornato Donato. Ma tu adesso io però mi incazzo, perché non è possibile? È tornato. Cioè, notizie, piovono notizie dal mondo, dall'Italia, eh? La notizia alle 20:19 su Radio 24 è che è tornato Donato da Varese, un signore che parla come quello di Guerre Stellari. Un signore che ha l'asma cronica, che parla, vomita stupidaggini, insulta, e per lui questa è la notizia. No, non è una notizia. È tornato Donato da Varese. Ma tu ti rendi conto quanto sei imbacato in testa ormai, proprio deglutito, mangiato, divorato da questi mostri creati nel corso di questi anni? Ti rendi conto? Donato da Varese, tornato, ma come fosse, come Samantha Cristoforetti, come fosse quello delle onde gravitazionali, come è tornato Donato da Varese, lo aspettavano, e questi altri miserabili che chiamano al telefonino per dire è tornato il nostro idolo. Ma in che cazzo di mondo viviamo ormai? In che mondo è? Che paese è? Che... Ma aspetta, è veramente un idiota, aspetta, proprio. Ma fa non schifo. Fa parlare questo, non fa ma parlare sei questo, una questo persona è un, schifosa. È un mentale, ma che è un schifo. Un ma Donato da Varese, ma fa schifo. Questo qui è una bomba. Ma che schifo di cose. Hai parlato di una cosa del passato, non ho capito bene. Ma che schifo di cose. "12 milioni la pensano come me. 12 milioni. Anna da Bolzano, dai. Anna. Pronto? Dimmi, Anna, dimmi. Sì, buonasera. Io volevo far notare un dato a proposito delle dichiarazioni della signora Eva Klotz. Sì. Il padre della signora Eva Klotz, Georg Klotz, detto il martellatore della Valpassiria, è stato uno dei principali terroristi indipendentisti. Sì, beh, è stato condannato in contumacia a 52 anni, che non ha mai scontato. Sì. Allora, magari questo vitalizio, invece che spenderlo per fare un referendum che tutto sommato non ha alcun senso, la signora Eva Klotz potrebbe donarlo alle famiglie di coloro che sono morti in questi attentati. Glielo dica, glielo piacerebbe. Dica, glielo comunichi, glielo scriva, lo incontri, la vada a incontrare a Bolzano per strada, non mi sembra che si sottragga a questo. Sì, diciamo che non è che le colpe dei padri ricadano sui figli, la cosa è ridicola. Certamente no, la cosa però ridicola, dissociarsi sarebbe stato... No, la cosa ridicola, devo dire la verità, su quello che ha detto, è il fatto di non riconoscere l'Italia. Cioè, siccome poi il Trentino Alto Adige fa parte fino a poco contraria dell'Italia, per me se ne possono andare, non me ne frega niente del Tirolo, se ne andassero chi se ne frega, ma fa parte dell'Italia, quel vitalizio che ha preso 1 milione di euro, quel conguaglio, come dice lei, al vitalizio, è in parte, non solo, frutto del lavoro di tutti noi, cioè è frutto del lavoro di tutta la comunità. Anche no, secondo lei lo paga solamente la regione... La regione Trentino Alto Adige, eccetera, eccetera. Che devi fare? Matteo da Brescia, dai, Matteo. Stiamo dicendo delle cose un po' scorrette qua. Perché? La Teresa Stolz e anche il padre non hanno ammazzato nessuno, hanno attaccato solo... non hanno ammazzato nessuno, non hanno ucciso niente. Io non so se non conosco bene la storia della famiglia Klotz. Hanno solo messo della dinamite sotto, per carità, gravissima, roba gravissima, però sotto dei tralicci elettrici. Sì, sì, va bene precisarlo. Io allora... non è una cosa bella mettere i... Per carità. Perché l'ha fatto anche Feltrinelli, mi sembra, no? Sì, no, ma infatti... Ecco, allora... A me mi dà fastidio, mi dà fastidio solo una cosa, il fatto di considerare l'Italia una specie di... Perché poi si sente dalle parole, no? Un paese, sì, un grande paese, sì, un paese bello, un paese, insomma, di poveracci, alla fine. La bandiera, no, la mia bandiera è un'altra, il mio presidente, no, non è quello, è un altro, l'Italia non è il mio paese, e poi, nello stesso tempo, incassare denaro. Però il denaro viene incassato perché lei dice abbiamo dato dei versamenti, ma i versamenti li avete decisi voi, con le vostre leggi. Il Trentino Alto Adige, fino a prova contraria, fa parte dell'Italia. Cioè dire, lo statuto speciale, dunque, tutta la creazione che ti porta poi ad avere dei soldi, vitalizio, eccetera, fa parte della Costituzione italiana, punto. Uno non può fare... come si dice in gergo, e dato che siamo in tema, il frocio col culo degli altri. Ecco. No? Questo, peccato che lo stesso trattamento non l'abbia avuto gli istriani quando la Jugoslavia ha rivendicato le terre istriane. Vabbè, adesso non torniamo alla tutto. Storia, parliamo della cosa. No, niente, volevo dire. Vabbè, Matteo, grazie. Eugenio Pordenone, vai. Sì, pronto. Dimmi. Pronto? Ti chiamo per lo sbattezzo. Lo sbattezzo. Allora io... chiamo per lo sbattezzo. Ne abbiamo parlato poco dello sbattezzo stasera. Però va avanti tutto. Mandate messaggi, adesioni. Sì, gente... c'è gente che mi manda la lettera che ha inviato alla parrocchia. Avanza lo sbattezzo. Avanza. Dimmi. Ma attenzione. No, diciamo che siete scaduti ormai, perché io ho avanzato la domanda nel dicembre 2006. Ma chi ha detto che è una cosa nuova? Scusa, io ho per caso detto che è una cosa nuova? No, assolutamente. Non è però... che ho detto che è un'invenzione nostra. Esiste questa cosa da un sacco di tempo. No, è curioso lei invece. È curioso lei che dal 2006 che l'ha chiesta e che forse e che ancora si rivolge a noi per ottenerla. Nel 2007, gennaio, ricevo una lettera contando di timbro con la cera. E che è successo adesso? Ha ottenuto una risposta o no? Attenzione, sì, ho ottenuto una risposta. Allora, cioè è stato cancellato? Del ordinario diocesano? Annota che il sottoscritto ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica Apostolica Romana con effetto dal 2 gennaio 2007 e adesso arrivano le punizioni divine. Si fa presente che la notazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico. La scomunica, e qui chiedo al emerito Parenzo, la etate sententiae. Cioè, non ho capito, l'hanno scomunicata. L'esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione. La necessità della licenza dell'ordinario del luogo per la missione al matrimonio canonico. E questa mi duole tantissimo. La privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento. E poi, finale, l'esclusione dai sacramenti. Se uno si sbattezza, però sono tutte conseguenze abbastanza logiche. Il padrino lo trovo una cosa assurda, per cui uno, il padrino sta lì. No, ma io comunque sono fiero di questa cosa qua. Ma scusa un attimo, io non riesco a capire una cosa, però. Ma le coppie gay che vogliono l'utero in affitto, secondo me sono malati. Perché? Allora, sono malati per questo motivo qua. Allora, io sono a favore dei matrimoni per tutti con tutti, ecco. Però... perché devi adottare un neonato? Il neonato piange, mangia, caga, vomita e rompe i coglioni di notte. Ma prenditi un bambino di 4-5 anni che è spannolinato, che non rompe i coglioni di ma notte. Ma cosa gliene frega questo qua? Però non ha torto, Eugenio. Ma qualcuno lo obbliga, no? No, però Eugenio, vendola invece di andare in America per fare artificialmente, per l'utero in affitto da una donna americana, credo. Ma è che non sappiamo se sarà l'utero in affitto oppure se invece adotta all'estero un bambino. No, probabilmente sarà sì. Ma mettiamo che sia l'utero in affitto come si pensa e come è stato scritto. Lui dice, invece di avere la rottura di coglione di un neonato che frigna, la merda, i pannolini, eccetera, che però per qualcuno è anche un piacere, altrimenti non lo farebbero, adottassero qualcuno, cosa peraltro complicata comunque, Eugenio, di 5, 6, 7 anni, così quella fase è stata superata. Questo stai dicendo? E l'ultimissima cosa, le donne col velo risolverebbero l'assenteismo nella pubblica amministrazione. Perché? Perché allora avete passato quell'intervista della tipa io devo farmi bella perché ci stanno tante riunioni. Mandi la donna col velo alla mattina, non rompe i coglioni al marito che deve stare 2 ore in bagno e lui non può cagare tranquillamente. Si mette tu dici col velo, si... col velo senza trucco si risparmia il tempo la mattina. Finito. E il marito caga in santa pace. C'è gente strana. Ciao, in giro, Roberto, Luca, vai Roberto. Ciao a tutti. Dimmi. Io mi affido alla memoria della mia mano destra. Ma il titolo del film dovrebbe essere Cuore di pietra. Beh, Roberto, sì. Non mi era sa di sì, l'ho indovinato anch'io. Ma non era difficile, ma lo sai perché? Perché l'altro giorno l'abbiamo citato. Nei prossimi non l'avevo sentita. Nei prossimi giorni. Ah, tu così sei andato a indovinare? Com'è possibile? Dai, un brivido. Ma un che brivido. Hai digitato su. No, ma è una citazione famosa che si occupa di cinema. Ma che cazzo dici, Lorenzo? Tu conosci il film di Cuore di Pietra? No, ma conosco la citazione, però infatti stavo per dirlo, ti assicuro. Perché è una citazione. Chi si occupa di cinema? No, ma è una frase famosissima, è stata ripresa anche da altri registi. Come... È famosa, è una frase. Ma il film Cuore di Pietra? No, il film non l'ho visto io. Conosco la citazione. No, lui non l'ha ho visto. Detto che non ho visto il film, ma ho. Con chi è il film? Con Selene, cavolo, come con chi? Film con Selene, Cuore di pietra. Mamma mia, capolavoro. Come hai fatto adesso? Tu hai scritto su Google la no, frase? No, la mano destra, ti ripeto, c'è una memoria sensoriale. Sì, dalla no? voce anche si sente, si capisce che è uno del settore. 1996, Italia, 76 minuti, regia Silvio Bandinelli, il mitologico Silvio Bandinelli. Interpreti e personaggi, Selene, no, Monica, Kelly Trump, Irene, seconda moglie di Marco Valeri, Monica Starlet, Maria Sallontano, Baki Jakcic, Valentino cast Ray, internazionale, cast bravo. Pazzesco, bravo, fantastico. Bravo, applausi per Roberto, applausi, volevo, applausi. Scusate, io volevo soltanto dire un'altra cosa. Cuore le di vostre pietra. Inchieste sono bellissime, dimmi. Bellissime, e io non so se insomma vi interessa ancora l'argomento Piazzole e similari, però qua in questa zona ci sono dei posti che sicuramente, come dire, un intervento sul luogo con Parenzo sarebbe fantastico. Ma non lo vuole fare? Sì. Che ma io vengo, ma ci vengo anch'io. E che viene a fa? Siccome si va a vedere cosa avviene. Ma e poi si va a vedere, ma non c'è un cazzo da fare la mattina, niente, la sera. Niente, no, tutto il giorno io no, io no. Io tu no, non fai un cazzo? Non ce la fa, no, assolutamente. Niente, non lavori? No. Quanti anni hai? Pazzo. Quanti anni hai? Scusa, no, non mi offendere. Ha bestemmiato. Non mi offendere. Quanti anni hai? Scusa. 39. 30, non fai un cazzo la mattina alla sera? Non mi offendere ancora questa roba. Scusami se ti ho offeso, scusami. Dai, veramente, cioè, abbi pazienza. Ciao, ho avviato una grande carriera da disoccupato. Cioè. Ciao. Ciao. Grandi. Porca troia, grandi. Anche dopo delle sambuche, delle birre, cazzo grandi. Vi amo. La Zanzara. Ciao Giuseppe, anch'io ti sto ascoltando da New York. Sono seduto davanti al Flatiron Building, mangio una banana e indosso la tua sciarpina e ti penso. Ciao Coccolo, ci rivediamo. Cioè c'è un personaggio che si aggira per ciao, New York. Coccolo? Ma chi è questo qua? Che mi manda dei messaggi così, ciao Coccolo con la tua sciarpina. Io voglio assolutamente, come dire, smentire questa cosa qui. No? Non ti conviene farlo perché peggiori la situazione. Ma invece raccontaci un attimo, com'è sto personaggio? Ma cioè, non lo so. Dalla voce sembra non giovane. No, ma e quando è che hai scoperto? Non darei un dolore ai tuoi familiari adesso che hanno scoperto questa cosa? No, voglio che capire, dolore, ma che no, non gli darei un dolore. Però, mia madre, lo sai che mia madre, se io dicessi, mamma, mi piacciono gli uomini, io credo che lei se la prenderebbe un po'. Cioè, si preoccuperebbe un po'. È un po' all'antica mia madre. E non è all'antica, è una sì, è un po' all'antica. Cioè, se gli dicessi, guarda, mi piacciono gli uomini, ho cambiato tutto. Cioè, mi piacciono gli uomini, mi sono fidanzato. Se portassi un uomo a casa di mia madre, mia madre credo che si sentirebbe male, te lo dico subito, cioè si sentirebbe veramente male, cioè sentirebbe mancare. Sì, io non so, cioè non posso biasimarla, diciamo, no? No, io un po' sì. Ma... No, nel senso che poi ovviamente le madri vogliono il massimo per i figli, però magari un po' gli dispiacerebbe, direbbe sai che dovremmo chiamarla uno di questi giorni, dovremmo chiamarla mia madre. Ma ormai non ci sono più. Ma guarda che veramente guarda. No, bisogna e magari metterla in comunicazione con Donato Tavarese. No, quello no. Chiamare mia madre e farla tirare fuori. Ma lasciamo stare i parenti, tutti i pregiudizi, cose, si... tutti i pregiudizi che ha sugli omosessuali, eccetera eccetera. Signora mia, ma lei che ha fatto di veramente? C'ha altri due figli straordinari. Ma che ha fatto di male veramente? Cosa le è capitato, signora mia? Perché? Allora intanto abbiamo un personaggio straordinario adesso, Parenzo, però è bene, tornato bene. Pupo, ottimo. È tornato quindi Pupo. Si vede che ci sarà. No, è tornato Pupo, è tornato Pupo. Ho visto la Dagospia, certo. Ci sarà un nuovo singolo che si chiama Porno contro amore, il cui video sarà realizzato dal sottoscritto, perché dice Pupo, questo è quello cioè che tu dice farai lui. Un video con Pupo? Sì, no, dirigerò un video di Pupo. Dirigerò? Ma cioè... questa è Stanley Kubrick, Quentin Tarantino. Dirigerò un video di Pupo. Così sembra. Ma cosa vuol scrivo dire? La sceneggiatura di un video. Perché dice lui, sono il numero uno sulle variabili del sesso, sarà una bomba. A bomb. Ho sofferto per le mie perversioni, dice Pupo. Ora ho trovato l'equilibrio nella bigamia. Gli italiani sono bacchettoni, ma la politica è porno, viscida, intrigante porcellina. Non sono più capace di innamorarmi e di fare l'amore. Ho un disperato bisogno di sesso che devo sfogare con te, con lei, con lui, da me. Questo è il testo della canzone, eh? Ho patito la dipendenza erotica, ma con Patricia e mia moglie ora sono in armonia. La bigamia di Pupo, cosa peraltro arcinota, abbiamo un personaggio che vi presento in questo modo. Sono vegetariana, di salsiccia mi piace solo quella umana. Ed è molto più salutare, credetemi. Così e ancora così. Ce l'ho pelo. Bufalo, eccola qui. Ciao ragazzi. Ciao Giuseppe, ciao David. Ciao bella. Come scusa, va? Benissimo, però volevo solo dire una cosa tecnicamente, poi lasciamo tutta l'intervista. Tecnicamente è questo. Io immagino, perché il 20 e 40, il dottor Squinzi, sì, che come lei sa è il presidente della Confindustria, che torna, sì, accende la va in macchina con il suo autista, non so chi, accende, ho la mia radio. Vediamo questa sera, finalmente, sei due ragazzi, cosa succede sulla mia radio. Quella adesso, gira. E a un certo punto c'è la canzoncina della signora, secondo me compulsa anche piuttosto nervosamente sullo schermo dove appare scritto Radio 24. No, lei non c'entra niente. E dice, ma deve esserci un errore, chiede ad Ambrogio, all'autista, dice, Ambrogio, deve essere un errore qui sicuramente. Sarà, c'è scritto Radio 24. Sarà 105, sarà. Sarà un'altra cosa. DJ, come no, guardi dottore, veramente Radio 24, quella della... Cara Diana, come stai? Bene, grazie, tutto ok. Allora, voi, che dite? Diana, del 1990, amico mio, Parenzo, esatto. È del 1990, cioè è nata nel 1890 febbraio, no, 1900. È nata quando io andavo a vedere i mondiali di calcio nel 90 in Italia. Ero già un ragazzetto, insomma, abbandonato a se quanti stesso. Quanti anni avevo io, dunque? Io sì, sono del 76. Io del 66 avevo 24, quanti avevo? Sì, 24 anni. Io avevo 24. Ma scusa, ma Giuseppe, quanti anni c'hai adesso? Scusami, quasi 50, amica mia. Entro... Ma perché io ti ho visto? Cioè, sei un fico, sei. Beh, adesso non esageriamo. Sei un fico della... Ma la signora, ma credimi, è un ospite a pagamento, credimi, della trasmissione. No, ma... non è ospite a pagamento. Ma... lo sta dicendo sul serio. L'ho incontrata, guarda, scusami, con Paolo Ruffini una dire... delle... qualche sera fa. Esatto. 15 giorni, esatto, fa, 20 giorni fa, in un locale a Milano. E sì, non l'ho incontrata. Pensavo. Però... Ma non pensavo. Io ti ho visto delle foto, ma non sembra... eri così... figo, misterioso, intelligente, poi con questo, questo look un po' da... È l'ospite a pagamento, in tutte le puntate c'è ogni tanto un ospite a pagamento. Sei il look da zingaro che mi piace a me, e sei bellissimo. Ma ha preso un gettone di presenza? Come no. Funziona? Ma... No, chiedo. Ma guarda, no, Jean de Paul. No, però, no, no, no, allora, io ho quasi 50 anni, amico mio, è vero. Ultimamente ho messo un chilo e mi infastidisce questa cosa terribilmente. No, ma purtroppo, no, ho messo un chilo, ho controllato, ho messo un chilo e sono giorni che sono incazzato per questo. Sono talmente malato di mente che ho controllato, ho messo un chilo e divento pazzo. Cioè, ma sono no, nervosissimo. Tranquillo. Tu sei abituata a Paolo che c'ha la panza, amica mia. Io non ce l'ho la panza. Non ce la voglio avere la panza finché non posso avere. Fa palestra, fa palestra. Allora adesso forse un po' dimagrisce. Ma io non ho capito bene. Ma mi piace. Non ho capito bene. Ma tra di voi che rapporto c'è? Ma è bello, un bel rapporto. C'è un rapporto bello. Cioè, siete fidanzati, si può dire? No, si può dire come siete? No, no. Un po', dai, un pochino. Un pochino siete fidanzati. Vabbè, ma che male c'è? Sono fidanzati, ma è una parola. Infatti, no, infatti non. Cioè, vi frequentate sessualmente e spiritualmente, diciamo, no? Molto più spiritualmente, devo dire. Come? Come molto più spiritualmente? No, scusa, Paolo. No, adesso mi ammazza, Paolo. Paolo! Paolo! Paolo Ruffini! Molto più spiritualmente che sessualmente, amico mio! 8 febbraio è nata la signora. Amico. No, l'8 febbraio. Che c'entra l'8 febbraio? È un acquario come me, brava. Acquario, davvero? Vabbè, ma che cazzo c'entra? No, ma anch'io sono acquario, 8 febbraio, ho visto sulla sua cosa. Anche tu, Parenzo, sei bellissimo. Anche io sono tu, 14 anche febbraio. Anche tu sei bellissimo, ecco, secondo Parenzo. Ospite a pagamento della serata. Allora, io dico una cosa, però, Allora, che cosa ha di bello il signor Ruffini? Innanzitutto, tu che cosa vuol dire? Che cosa stai facendo in signora questo del momento? Bufalo. Oltre ad aver fatto Colorado, allora, che stai quella facendo? Quella canzoncina, possiamo ristornarla un attimo, quella canzoncina. Ma a te non ti piace? Ma non gli piace molto. A David, vero? Cosa, a me piace figa, moltissimo la canzoncina. È un po' no, cosa dici? Un po' bacchettone, perché ha detto ma che è vero, che innanzitutto, la prima domanda è questa. È vero che c'hai la foresta oppure è tutta propaganda? Ma certo, anzi, mi sono anche un po' ingelosita, scusate se ve lo dico, di quella ragazza che ha chiamato. No, io sono la precursora. Sono io la precursora della vercella pelosa, quindi non mi devono copiare. Non mi devono copiare. Ma che tipo di gelosita. Ma che tipo è? No, lo dico per Squinzi, stiamo parlando dei costi azienda, quindi. Allora, non lo dico nel caso si mettesse in collegamento che magari. Allora, non che tipo di Davide, non ti preoccupare. Allora, io chiaramente la zona tipo del Dinguine me la faccio un po', perché capito, col costume, con le mutande, poi con i peli brutto. Cioè, ma lo capisco anch'io, poi però c'è il triangolo, il triangolo. Però c'è il triangolone. Ah, triangolone, non triangolo, triangolone. Cioè, mantieni una foresta bella bella folta, bella visibile o no? Certo, esteticamente o c'è il prato all'inglese, o c'è il pratino all'inglese. No, guarda, io sono poco pelosa. Scusami se t'ho offeso. Ma a me mi ha offeso? No, scusami se t'ho offeso dicendo che c'è il prato all'inglese, assolutamente. No. Un pochino, infatti. No, non ce l'ho, però sono poco pelosa, quindi i peli chiaramente non è che sono tanti, non è che ho, sono i peli di però mamora, ce li hai, no? Però ce li ho, assolutamente sì, e soprattutto quello che mi spaventa sono gli uomini che adesso si stanno depilando, che hanno schifo, davvero, sto lombrico così, senza niente, fa schifo, davvero. Fa schifo, è vero, no, questa è la ragione, gli uomini depilati fanno un po' schifo, no, sì. Cioè tu vuoi sentire il pelo ogni tanto, ma certo, cioè, ma poi è sulla schiena, no, però. Lì. Sulla schiena. No, oddio, ma sì, ma Paolo com'è? Peloso, signor Ruffini? No, sulla schiena no. Però ce li ha, però ce li ha. Ma sul coso? No, no, ma no, è vero che... Ah, no, scusa. No, sul coso ce li avrà, mica depilato. Beh, si depila. Beh, vabbè... Si depila, roba incredibile. Dottor Ruffini. Dottor Ruffini. Lei, il direttore di Rai. Ma è vero che ha un... è vero che ha un pene importante o no, signor Ruffini? Ma perché dicono così? Dicono. Non stiamo parlando, dottor Squinzi, delle pene che hanno gli industriali quando devono fare i rimborsi dallo Stato, quelli che hanno crediti esigibili ma dallo Stato. David, ma non ti interessa saperlo, è così una cosa di curiosità. No, ma io dicevo nel caso allora, si mettesse il collegamento. È vero quello che ha detto una volta, okay. Che è importante, quello che ha detto prima Parenzo e quello che abbiamo detto prima. Beh, noi. Senza... Allora, io ne ho visti molti pochi, devo essere sincera. Molto pochi, sul serio, non sto scherzando. Guardate, potete non credermi, ma è vero. Cioè, con quanti uomini sei stata? 3, 4, 5, quanti sei stata? Paolo, Paolo il secondo, ma roba, a 26 anni due uomini, a 26 anni due uomini, disastro. Ma credimi, guarda, lo so. Vabbè, per carità, per carità. Che vedevo Dio. No, ma è così, se è così, è così. Una materia che si innamora e che si vuole fidare dell'uomo, non mi sono fidata, non mi piaceva, non va. Cioè, stai solo con quelle di cui ti innamori? Sì, cioè ci deve essere un grande sentimento. Ci deve essere un grande sentimento. Allora, è importante o no? Questo è un bel messaggio. Allora, non sai dire se è importante, però, diciamo, l'attributo del signor Ruffini. No, sì, sì, è importante, sì. È importante. Cioè, è vero quello che ha detto. È vero quello che ha detto in quell'intervista famosa. Ma sì, non è Rocco così freddi, chiaramente, però sì. Però sì, sì, sì, sì. Allora, questo è molto importante. La prima telefonata con lui quando è avvenuta? Cioè, il primo contatto. Com'è stata la prima telefonata con il signor Paolo Ruffini? Stavo facendo la pipì. Stai facendo la pipì? E stavo facendo la pipì e a un certo punto chiamavo questo numero che non conoscevo, faccio pronto. E poi mentre scorreva la pipì, dicevo pronto. E lui mi fa scusa, ciao Diana, sono Paolo Ruffini. Poi io lo odiavo, mi stava sulle palle, proprio non lo consideravo proprio, era stupido, lo consideravo un comico demenziale, sì. Indecente, sì, proprio sì. Non mi piaceva. Sì. E quindi ho detto, mio Dio, ciao. E mentre faceva la pipì mi fa, ma ti disturbo? Dico, no, stavo solamente facendo la pipì. E mi fa, ah, vabbè, ti chiamo per te. Ah, tranquillo, ho fatto. Insomma, vabbè. E quindi cioè, ci hai parlato mentre... Vorrei... Sì, ti vorrei? Esatto, mi ha detto, sai, ti vorrei provinare per Colorado, perché sei figa, sei forte, yeah. Dico, ah, ok, volentieri. E poi hai visto, da Colorado. Da Colorado. Sì, fammi, fammi una bella dichiarazione anti-vegana, ti prego. Cioè, dimmi anche tu, potrei, allora, non dico innamorarmi, io per carità, Paolo è un amico, per cui è. Però una cosa anti-vegana la devo sentire da te. Cioè, una dichiarazione anti-vegana. Allora, ti posso fare una dichiarazione anticonformi... Cioè, no, quello che ti pare, quello che ti pare. Dai, siccome ecco, allora, io sono d'accordo e do la libertà a tutti di mangiare quello che vogliono. Assolutamente, su quello non però... si discute, non sono una rompicazzo. Però io ce l'ho, non con i carnivori, semplicemente ce l'ho con le multinazionali e con i gli allevamenti intensivi. Perché loro sono veramente degli assassini. Bravo, che non hanno rispetto questo, per su questo. No, ma aspetta, fermo. Che vuol dire gli allevamenti intensivi, ragazzi? No, qui c'è un ragione, vero? Qui c'è un tradimento. Ma... io pensavo che tu fossi una carnivora antivegana. Ma lo è, ma di invece... carne no, buona, allora, ha ragione. Io ero carnivora, ma credetemi, ero carnivora e mi piaceva tantissimo. Purtroppo poi ho avuto una chiamata, tipo le suore, no? Sai la chiamata famosa? Non so cosa mi è successo. Ho assaggiato la lasagna con le salsicce di mia madre e purtroppo mi è venuto un flash. Ho detto, mio Dio, che schifo, ma sto mangiando un cadavere, in putrefazione. Oddio e niente, mio. Quindi ho smesso di mangiare la carne. Ti prego, Giuseppe, non abbiamo, mi viene, prego. Abbiamo perso pure Diana del Bufalo. Abbiamo ti perso prego, pure Diana. Giuseppe, ma io non ti rompo il cadavere. Ci siamo persi pure. Certo, ci mancherebbe pure che pensassi che io sono un assassino oppure sono ma assolutamente no, è per questo che ti sto dicendo. Abbiamo perso pure Diana. Abbiamo perso pure Diana. Sto cercando di conformare tutto quanto, sto cercando di essere diplomatico, ma perché... Scusa, allora, di fronte, un animale uguale a un essere umano, secondo te? Ma assolutamente no, però... Per cui, che ne so, tra la vita... se preferisci, dovessi scegliere, dare un calcio a un barboncino oppure un pugno a tua nonna, che cosa fai? L'unica scelta, o un calcio a un barboncino o un pugno a tua nonna, che fai? Ma che belle grandi pugno scelte, però è un po' troppo, abbia pazienza. O un calcio al barboncino piccolo, o un calcio al barboncino piccolo, un calcio piccolo al barboncino. Un calcio devo piccolo al però, barboncino. Non lo devo ammazzare però, Cioè, non è un calcio. Senti, grande. Qual è la tua penetrazione? Sì, la penetrazione. La tua perversione... no, parliamo dal punto di vista proprio del mercato. La no? tua cioè, perversione più grande, cioè una perversione sessuale più grande che hai, qual è? Cioè, dunque, con a tre e però con una donna. Vabbè, una cosa normale, cioè... sì. Tu Paolo è una donna, tu Paolo è una donna, diciamo. No, non li devo conoscere perché lei se sta a toccare Paolo la magno. Ah vedi, è gelosa anche, esclusiva. Sei gelosa vedi. Di Paolo Ruffini? Sì, un po'. Sei gelosa. No, ma non è vero, non è vero. Ma sei monogama, sì, per due uomini. Vabbè, l'ha detto. Più monogama di te, non so chi c'è. Diana, sei la numero uno, va, ciao. Solo l'unica cosa è sei caduta anche tu nel tranello. Te l'ho detto, ma non sono vegana. Nel tranello delle multinazionali degli allevamenti che ammazzano gli animali. Guarda, ti farò vedere dei video poi con la prossima sezione. Lo so, li conosco. Un bacio, ciao. Ciao. Ragazzi, ciao. Ci sentiamo domani 18:30. Se no chi c'è? Sara Dall'Aquila, Giorgio Bolzano, Maurizio Firenze, Alberto Genova, Alberto! Domani non posso, ragazzi, ho chiuso con Diana perché ci tenevo troppo, ciao. Ciao coccolo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma dove cazzo è questo casello di Carisio? Radio 24. La passione si sente.